avanti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cristani, allora diciamo la verità, Cristani è venuto a casa mia una sera d'estate e ci siamo dati un bacio davanti alla porta. Sì, sì, è vero, confermo, confermo. Ma risentiamo questa cosa che ha detto la signora Flavia Vento. Dai, Cruciani, allora diciamo la verità, Cruciani è venuto a casa mia una sera d'estate e ci siamo dati un bacio davanti alla porta. Hai capito? Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. In realtà la signora Vento lo racconta per denigrarmi, diciamo, no? Come per dire, beh, sei venuto a casa mia, sei stato qui, poi te ne sei andato e mi hai dato solo un bacio davanti alla porta, cioè non siamo andati al dunque, insomma, non siamo arrivati alla conclusione, non così sei arrivato. Dice lei, alla... così dice lei. Allora, tanto per chiudere sul sottoscritto, oggi... Sì, oggi appare una notizia importante, non certo sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sul Sole, ma su altri giornali. No, su agenzie di stampa. In cui lei sarebbe protagonista di una webserie erotica con la signora Lori del Santo. No, ora, no, vuoi leggere? Io chiedo se questa azienda... ha ancora una dignità. No, no, ma questo figuriamoci. Io dico questo, chiedo al direttore napoletano se ha intenzione di fare un'iniziativa editoriale per cui la domenica, ad esempio, oltre all'inserto culturale del Sole 24 Ore, ha intenzione di mettere anche il DVD con DVD, la serie erotica DVD, della no, signora DVD. del Santo e Cruciani. Questa è la questione che volevo porre. Oggi no, ma... l'avrei posta nel corso della trasmissione. Escono fuori delle cose incredibili, sì, cioè, a mia insaputa, ti assicuro, sì, te lo giuro su mia figlia, a mia insaputa. No, guarda, allora Giuseppe Cruciani come Rocco Siffredi, o quasi, il giornalista conduttore della Zanzara, leggo su Radio 24, sarà tra i protagonisti della nuova puntata della webserie erotica, ma non porno. Di Lori del Santo, cioè precisano pure, ma non porno, di Lori del Santo, dell'Edi, l'amore sconosciuto, che ha avuto uno straordinario successo, enorme successo, un flop assoluto, però vabbè, d'accordo, è normale che sia così, su internet è complicato. Per Giuseppe sto scrivendo, parlala del Santo, adesso vi assicuro che la voglio chiamare perché è incredibile. Per Giuseppe sto scrivendo la parte più divertente e peperina, che rispecchia al meglio il suo carattere così invadente ed ecocentrico. Ma quante ne avete girate? Ma sei impazzito? Ma io non so nulla di questa roba, nulla. Nulla. Di questi tempi, sai. Senti, ancora dicela del Santo, la sua interpretazione lascerà il segno. Ma si può vedere il promo di questa cosa? Mi sono messo una mano, ho aperto la mano, a piena mano, sulle palle. Non si può vedere il promo. Del cast faranno parte anche Platinette e lo scrittore Andrea Pinkez. Sempre sobrio Pinkez, comunque. Sempre sobrio. Scusami, brutto sciagurato. Vabbè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, su. Cioè, non so nulla di questa cosa qua. Nulla. Non interessa a nessuno e non so nulla. Perché l'hai. Perché oggi ho passato la giornata alla Camera dei Deputati. Non si parlava d'altro. Ma che Italicum, Da Torre, Bersani, che si parla tutti che dicevano della web serie con Lori del Santo. Ma il tuo collega farà veramente la serie erotica con Lori del Santo? Dico, guarda, l'ho appreso anch'io, non so se il Sole darà il DVD con questa, non so se è un'iniziativa editoriale concordata. Allora, a proposito di dittatori, tutti quanti gridano, tutti, insomma, in realtà nessuno, comunque alcuni gridano alle tendenze dittatoriali di Renzi, il che francamente è ridicolo, lo diciamo subito, ridicolo. Italicolo. L'abbiamo spiegato più volte, anche ieri. Io alla sola parola Italicum già mi girano i coglioni. Cioè già mi girano le palle solamente a sentire la parola Italicum. Perché, per carità, non è che non è importante la legge elettorale, come andiamo a votare, però non se ne può più. Mettesse pure 50 fiducie, si chiuda questa vicenda. Non c'è nessun attentato alla Costituzione. Vince il primo partito che arriva dopo due elezioni, dopo due votazioni. Il primo turno se non prende il 40% e il secondo turno. E non ci rompete le scatole. Eh sì, non sono renziano, però questo bisogna dirlo, no? Scanzi, sentiamo Scanzi, che è uno di quelli che dice che Renzi ha tendenze dittatoriali. Dittatoriali, L'arroganza smisurata del Presidente del Consiglio e le sue tendenze dittatoriali e la sensazione dell'uomo solo al comando che è disposto a tutto pur di far passare quello che secondo lui è rinunciabile e secondo molti italiani no. Ma adesso l'amico Scanzi è diventato interprete dei molti italiani? Bah! Allora, vogliamo sentire ancora qualcuno dei 5 Stelle? Five Star, che tra l'altro non, i 5 Stelle non capiscono che potrebbero pure avvantaggiarsi di questa legge, perché se arrivassero secondi al ballottaggio potrebbero fare il ballottaggio con Renzi. Sanno, per questo in questo fanno... momento i 5 Stelle è il vero partito, cioè il vero, ma la vera opposizione, sanno, Renzi, non possono vero partito appoggiare Renzi, capito? Loro lo sanno ma non possono appoggiare Renzi, quindi fanno delle che ha detto, aspetta fammi sentire un altro, Toninelli, la legge elettorale dell'infelicità, sempre con st'infelicità, cioè l'economia dell'infelicità, l'economia della ripresa. Sentiamo. Questa legge elettorale è la legge dell'infelicità. Cosa c'entra la felicità? Allora, è statisticamente provato che la felicità dei cittadini è correlata con la partecipazione alla vita pubblica e quindi anche politica dei cittadini. In Italia che cos'è che accade? In Italia accade l'esatto opposto, la politica... No, ragazzi, non ci siamo. Allora, secondo il cittadino Toninelli... Five Stars, 5 Stelle, lo so, ho contribuito a fare leggere anche Toninelli, sì, hai ragione. La felicità degli italiani, del cittadino italiano, popolo della radio, sentite perché questo è incredibile. La felicità di un italiano è commisurata alla partecipazione alla vita pubblica. Cioè, più si partecipa alla vita pubblica e più... Allora, scusa, in America, dove va a votare, non so, il 30%, sono tutti infelici? Sono tutti infelici in America? Dai, su, ragazzi. Si possono dire troppe cazzate, troppe cazzate no. Un po' di cazzate sì per divertirci, ma troppe cazzate no. Poi avendo anche, come dire, la pretesa che non siano cazzate, cioè avendo anche la pretesa che siano delle cose importanti, serie. Dai, su. Oh, il cittadino ghigliottinatore Giarrusso, vogliono il fascismo. Un mito, Giarrusso, non lo posso contestare mai, Giarrusso comunque, Questo è quello che vogliono fare in questo paese, mettere il Parlamento politica, sotto, non è un partito politico. Sotto la direzione del governo, e questo nel nostro paese lo dobbiamo dire perché è storia, è avvenuto col fascismo, perché questo è quello che, a cui ha puntato allora Mussolini. Colpito ancora, oh, se ne inventa una al giorno l'amico Buonanno al Parlamento Europeo, caro Parenzo, se ne inventa una al giorno. Cosa ha fatto? A un certo punto oggi al Parlamento Europeo ha affrontato un prete nero, prete di colore, un tizio che è candidato al premio Nobel per la pace, che si chiama Don Musi Zerai, non so come si chiama, e ha attaccato, ha sprombattuto. Oggi il Papa ha detto anche che la disparità tra uomo e donna non va bene, che la donna viene pagata di meno, poi anche nella Chiesa, diciamo, le donne non sono trattate benissimo all'interno della Chiesa, ma lasciamo perdere. In passato. Sentiamo Buonanno che affronta questo prete. Sono persone come lei, come me. Certo. Quindi hanno gli stessi diritti. Lei rappresenta la Chiesa? Sì, bene, allora perché non dice al Santo Padre, a tutti voi, ad esempio Castel Gandolfo, l'avete aperto al pubblico, ci sono centinaia di ettari, no? Ospitate lì qualche migliaio di clandestini. La Chiesa, tanto che per molti aspetti non paga l'IMU, glielo dico da sindaco, perché non li ospita tutti nelle loro case? Le dico, le rispondo. Dica. Se non ci fosse la Chiesa, in ma io l'aiuto, io sono cristiano. Sì. Poi dice pagate le suore. Ma se vi paghiamo lo stipendio, chi? Lo Stato italiano vi paga lo stipendio. Ma già ho sì. La Chiesa sta facendo il suo dovere. Ha aperto le porte, mettete qualche migliaio di clandestini. Va a vedere la storia prima di parlare. E pagate le suore, va, perché non è giusto che le suore non hanno lo stipendio, i parroci ce li hanno. Perché ne li e paga. I parroci lo aspettano di fare con lui. A proposito di preti, io non so se le suore vengono pagate o no. Certamente se non venissero pagate, il Papa che ha detto oggi che gli stipendi tra uomini e donne, la differenza è uno scandalo, anche dentro casa sua dovrebbe guardare. Abbiamo con noi Don Paolo Farinella, mitico da Genova. Buonasera Don Paolo. Buonasera. Si è rimesso in sesto, ha avuto un piccolo, che è stato in ospedale, che ha fatto? No, sì. Sono stato operato alla spalla per una rottura di tendini. Rottura di tendini, beh, è molto grave, è molto grave, è molto grave. Adesso sono in... Ma scusi, ma le suore vengono pagate o no? Che cosa? Le suore nella chiesa vengono pagate? Voi... Ma di per sé no, perché appunto, le suore di per sé fanno una scelta libera di vivere in comune e quindi di mettere in comune, non è che sono assunte come dipendenti. È una scelta di vita che fanno. Ho capito, però. Cioè, è una comunità per cui fanno tra l'altro voto di condivisione totale, no? Sì, no, ho capito. Non c'è un contratto di lavoro. Mentre ma due spicci in tasca li avranno, però, o no? Come? Due spicci in tasca se devono comprarsi delle gomme da masticare, un caffè. Sì, ma quello però li chiedono, avranno qualcosa, non so come si organizzano. Poi all'interno, perché io non... Cioè, il tuo è uno stipendio, Don Paolo? Come principio, cioè come norma giuridica, una suora, un frate, decide liberamente di entrare a far parte di una comunità e insieme condividono quello che hanno. E quello cioè, che non ci sono suore stipendiate? Ci sono se lavorano fuori, se lavorano nelle... se vanno ad insegnare, se fanno dei lavori extra fuori, ma come se hanno un contratto di lavoro. Ah, vabbè, ho capito. Questa è la norma giuridica, è questa. Vabbè, Don Paolo, lei invece ce l'ha un gettoncino di presenza? Beh, tu hai uno stipendio, Don Paolo, no? Un gettone? Sì, io ho uno stipendio di 900 euro al mese. E che ci fai con 900 euro? Ci vivo. Non pago l'affitto della casa. Sì, vabbè, 900 euro, ma ce la fai con 900 euro o no? Vivo da solo, ce la faccio passare, perché grosso modo oggi è lo stipendio di un metalmeccanico in cassa integrazione. Senti Don Paolo, ma che ne pensi di Renzi, che ha fatto passare l'Italicum ancora non definitivamente, ma insomma con la... cosa vuoi che ti dica? Oggi abbiamo fatto una manifestazione a Genova il 26, lunedì 27, ma è un po' fascista. C'erano 20 deputati a cominciare a discutere di questo Italicum, che è una vera una doppia porcata. È una doppia porcata, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo la prima porcata. Vabbè, ma questo è diverso, questi, però. Questi deputati se tu gli togli il premio di maggioranza, che la Corte Costituzionale dichiara illegittimo, sono illegittimati perché sono una minoranza. E poi, secondo la Costituzione, la legge elettorale è di proprietà del Parlamento, non è di competenza del governo. Vabbè, ho capito, infatti è il Parlamento che la prova. Lui non può ricattare, quindi questo è puro fascismo. È fascista, cioè secondo te Renzi è un fascista? Questo è molto molto di più del fascismo, perché mentre con Mussolini si sapeva che era un fascista, questo è travestito da democratico. E invece? È ancora peggio, perché fa finta di essere democratico mentre usa metodi e sistemi fascisti, perché ha ricattato 400 deputati dicendo: se non votate come dico io vi mando a casa e non avete la pensione. Cioè, ma tu hai paura di Renzi? No, non ho paura, io gli darei un calcio in culo e lo manderei a Coso Fiorentino, dove si trova. A Rignano, dove viene, perché tra l'altro non è stato eletto da nessuno. Questo è il terzo presidente del Consiglio. Vabbè, ma se tu dici che è un fascista, che governa senza essere eletto da nessuno. L'ultimo è stato Berlusconi, dunque meglio Berlusconi di Renzi. No, l'ultimo Berlusconi, poi Monti, poi Letta e adesso lui. Ho capito, dunque l'ultimo a essere stato eletto dagli italiani è stato Berlusconi, meglio Berlusconi di Renzi. l'ultimo a Berlusconi. Beh, guarda, se queste cose che sta facendo lui le avesse fatte Berlusconi, oggi l'Italia sarebbe in piazza. Ah, su questo non c'è dubbio. Sì, senti una cosa, cioè, io voglio capire, ma dico, con l'avversione che ho nei confronti di Berlusconi, sì, perché ritengo che sia lì l'inizio dei mali dell'Italia. Un porco, hai sempre detto. Hai sempre anni. Detto che è un porco, Berlusconi. Va, tutto quello che vuoi, mettici anche la mortadella, mettici quello che vuoi, sì, prosciutto, salame, culatello, sì, mettici tutto quello che vuoi. Però questo è peggio, perché questo qui è veramente gli sta portando avanti, sì, sia il progetto di Berlusconi, che poi era il progetto della P2. Cioè addirittura Renzi sta portando avanti il progetto di Gelli della P2, dai, certo, su, dopo quello della rinascita democratica dell'Italia. Addirittura, scusi, dai. Farmella, sì, sarebbe meglio, guarda, che lei si occupasse delle anime, se non si capisce la portata di questa legge elettorale, vuol dire che non si capisce proprio niente, perché questa legge elettorale cambia radicalmente le cose. Scusi, insieme Don Paolo, all'abolizione del Senato. Però Don scusi, Paolo, Don Paolo, se lei dice messa come fa le analisi politiche, c'è da farsi il segno della croce, amico mio. Beh, io me lo faccio sempre il segno della croce. Ma nel senso che è tutto finito, greco, nel senso che è tutto e finito proprio. Però scusami Don Paolo, se è vero quello che dici, uno dovrebbe andare in montagna con i fucili dentro le foreste a preparare la resistenza, cioè dovrebbe impugnare le armi. Forse ci stiamo preparando di nuovo ad andare sulle montagne per fare resistenza. Cioè bisognerebbe andare è tempo di resistenza, Ma bisognerebbe andare veramente in montagna a prendere i fucili. Se sarà necessario ci andremo. Ma no, dai Don Paolo, un attimo solo. Ci andremo con la motozappa, non so come ci andremo, ma comunque troveremo la forma di resistere, perché non tollereremo che la democrazia venga assassinata in questo modo. Un attimo solo che c'è il traffico, mi tolgono il diritto di votare. Ma che diritto di votare ce l'hai sempre, dai, forza, un attimo. Che ho per esercitare la sovranità popolare. Un attimo che c'è il traffico. Una cosa controtendenza. Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta La Zanzara. Piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want? Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. You gotta recognize my superiority. Oh, oh, oh, siamo qui, La Zanzara, 800 24 00 24. Grande Scazio in televisione, sempre tra Andrea Scanzi, che ormai è diventato, ripeto, un grande format televisivo. Scanzi contro donne del PD o di Forza Italia, contro le renziane, contro le ultra berlusconiane. Ormai è molto semplice la cosa. Alessia Rotta, Partito Democratico, contro Scanzi. Addirittura la signora Rotta gli dà del lampadato, non so che altro. Sentiamo. Un uomo, se io ti dessi del lampadato, come tu fai caricature delle mie vedo colleghe. Che vedo che i tuoi argomenti sono molto forti, sei parente della Picciano. No, i tuoi sono purtroppo... Vedo, ma se posso terminare, volevo soltanto dire... Essendo una miracolata, capisco che tu sia fedele a Renzi, lo capisco benissimo. Di essere governato, Scanzi. Ma da chi te lo chiede? Ma chi te lo chiede? Ma chi ti ha votato nel 2013? Avevate a malapena la minoranza. Allora... A proposito di Passera imbavagliato, che sembra il titolo di un film porno in realtà, Passera imbavagliato, sì, contro la legge elettorale. Verrà coinvolto anche lui nella tua nuova web serie erotica con Lori del Santo, forse. Rotta, lei si è rotta con la uova aperta. Allora, a ridaglie con sta roba. È falsa sta roba, questa storia. Ma. È falsa, è Ma. Falsa. Ma stai scherzando? Vedremo, non so. Vedremo, vedremo. Crozza su Passera, dai, che forte. Passera, che ieri a Roma è sceso a manifestare in piazza, che tra l'altro era la prima volta, credo, che vedesse una piazza da vicino, perché lui le aveva sempre viste da un attico. E vedere Corrado Passera in piazza stona un po', no? Corrado Passera è come vedere Paris Hilton alla Caritas. Dici, che cazzo ci fa Paris Hilton, no? Ma è con noi il prete più rivoluzionario d'Italia. Vuole andare in montagna. Vuole andare in montagna. Resistere contro il nuovo fascismo. Resistere. Tra l'altro, dai, il Don Paolo, di resistenza su. È uno dei concetti fondamentali nella morale politica cattolica insegnata da San Tommaso d'Aquino. Ma lei che vota in Liguria? Meglio, che ne so. No, assolutamente. Né Paita né Pastorino, che sono due facce della stessa medaglia e che alla fine si metteranno d'accordo. Ma perché non si è candidato lei, Don Paolo? Ma noi abbiamo provato a mettere o a fare una lista. Ma scusi, civica, Toti è meglio della Paita. Toti è meglio della Paita, allora, secondo no, lei? No, questi si metteranno d'accordo. Saranno la prova, la Liguria è il teatro di prova del Partito Unico Nazionale. Ma però può essere. Lo dicono tutti loro. Però può essere. Senta, però lei che è così vicino alle posizioni del Papa, io, no? Io qui in Liguria darò un voto di testimonianza, perché non ho altra possibilità. Vabbè. Voterò per il Progresso L'Altra Liguria. Progresso L'Altra Liguria. Che è una lista civica di persone che probabilmente non arriveranno. Però... ma sicuramente sono a livello etico ad altissimo livello. Senti, Don Paolo, ma il Papa che ha rifiutato l'ambasciatore presso la Santa Sede francese perché è gay, non ti pare uno scandalo? Sì. È uno scandalo, dai. Beh, secondo me, non spetta a te andare a sindacare i comportamenti singoli. Se lui si comporta male da ambasciatore, lo richiami e lo valuti. Se è frocio, chi se ne frega. Ma però, se il criterio diciamo laico... dovrebbe essere quello del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana, che noi possiamo applicare a tutta la vita pubblica, cioè sbaglia, quella religiosa, e cioè che in tutto non si deve fare nessuna distinzione, nessuna differenza di religione, di sesso, di politica, per cui, si prenda questo ambasciatore, si prenda questo ambasciatore e basta, no? Ah, sì, se lo prenda, l'ha nominato il suo governo, allora scusi, se ma... lo prenda, certo. E poi lui dà motivo di scandalo che non è concepibile all'interno, sì. ma se il Vaticano si guarda dentro, beh, ragazzi miei, a voglia te. Di omosessualità mi pare che non abbia tanta autorità. Scusi, ma come mai viene fuori un prete pedofilo al giorno qui, uno che fa abusi sessuali, denuncia, ragazzi, è pieno di preti sporcaccioni, nel manico, il problema è nel seminario, nella formazione, che ormai fuori tempo massimo. È pieno di preti sporcaccioni dappertutto qua, Don Paolo. È chiaro, perché se sono repressi, è chiaro, cioè devono poter far sesso in libertà. Se sono formati in una maniera anaffettiva, alla fine poi da qualche parte le conseguenze ci saranno. Cioè devono poter far sesso in libertà, diciamo, i preti. No, diciamo che dovrebbero essere almeno dico liberi di scegliere di essere sposati o non essere sposati. E comunque possono fare sesso tranquillamente, anche se non sono sposati, possono fare sesso. Sì, ma che facciano quello che vogliono. Esatto. Non è, il problema non è qui, il problema è che queste persone vengono proposte poi come educatori e come modelli. Vabbè, comunque. Scusi, nell'ordine, Don Paolo, ho capito bene. Sì. Resistenza in montagna contro Renzi, che possa essere libero. Ma se a Renzi succede qualcosa, scusa, ma se anche in montagna. Però se a Renzi succede qualcosa di grave, lei è contento? Cioè, se ce lo togliamo dalle palle in qualche modo, lei è contento? No, io me lo devo togliere dalle palle. Poi che succeda? San Tommaso dice addirittura che chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio. E dunque? Ma lei è un prete. San Tommaso, non lo dico io. E dunque? Ma lei è un prete. E dunque? E cosa vuol dire? San Tommaso è San Tommaso. Ma ho capito, ma lei dice che... cosa vuol dire? Lei è un prete, santo cielo! Che bisogna resistere a tutti i costi. Bisogna togliersi dai coglioni Renzi a tutti i costi. Sia al tiranno di usurpazione come Renzi. Ma il tiranno viene ucciso. Come Renzi. Ma se viene ucciso? Ma è un uomo di chiesa, lei c'ha il don davanti, che non vuol dire Don Vito, Don Ciancimino, ma don... Quando li ha fatti fuori lì a Katmandu. E allora? Nel mondo ogni giorno ne muoiono migliaia, guardi quante ne muoiono le E allora dice uno in più, uno in meno, non fa differenza. No, no, non fa differenza. Fa differenza che questi muoiano di fame e muoiono invece? Di peperi. E invece? Sta alla ricerca della vita. E invece? Questo qui sta uccidendo. Va bene, ho capito perfettamente, Don Paolo, ho capito. Giornale radio. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Dai ragazzi, mi rimettiamo un po' di pazzi animalisti di questi giorni, che hanno detto di tutti i colori sul terremoto in Nepal. Si sono augurati doppi terremoti, tripli terremoti, se la sono cercata. La mitica Nassetti. Loro fanno delle stragi di milioni di animali, certo. milioni. Siccome non c'è la punizione divina, questa volta il karma ha colpito. Punto e basta. Punto e basta. E in fondo se lo sono meritati, perché eccola, con tutta la cattiveria che hanno con gli animali. Voglio uno tsunami in Cina. Guardi, dovrebbe venire uno tsunami adesso in Cina. In Cina dovrebbe venire veramente uno tsunami, veramente. I cani, mangiano i cani in Cina. Li mangiano, li fanno, li scuoiano, li bolliscono vivi. Ci vorrebbe, io tutti dice, i video. Ci vorrebbe anche lì un bel terremoto anche là. Sì, ci vorrebbe uno tsunami lì, uno tsunami, uno tsunami anche lì. Vom, via. Infatti. Antonio da Napoli, intervenuto alla Zanzara. Antonio, questo ci voleva. Come, non ho capito, che è successo animali in Nepal? Animali e uomo. Cioè hanno fatto unica cosa. Cioè, cosa, sì. È stata una giusta punizione questa qua. Sì, milioni, cioè, di animali muoiono ogni anno per una stupida. Ma lei è idiota, stupida. Aspetta, e allora? E allora? Ha fatto bene. Cioè, ha fatto bene cose, ha fatto bene la natura a mandare quel terremoto lì, sì. Un po' di pulizia. Perché gli animali muoiono, gli umani non devono morire. Bruna da Milano. Bruna. Buonasera. Buonasera, dimmi. Niente, io non sapevo la storia degli animali, di conseguenza ero molto dispiaciuto per il terremoto, perché dico povera gente. Certo. Però adesso che ho sentito la signora e poi l'altro signore che ha descritto tutta la situazione, sono molto contenta che sia venuto il terremoto, anzi vengo lo scosso ancora più potente e che azzeri al suolo completamente tutto. Anzi, venga anche in Cina e venga in tutti quei paesi che fanno queste atrocità, di conseguenza proprio non me ne frega niente, anzi venisse in tutto il mondo così facciamo un po' di pulizia. Ma scusa, i bambini che muoiono? Senti, i bambini poi diventano grandi, quando diventano grandi diventano degli uomini, cosa sta casando di quegli individui? Ma lei fa un essere schifoso, lei lo sa che è un essere schifoso. Ma guardi, non me ne frega proprio niente quello che tu sai, pensi per lei. Il resto tra poco. Le telefonate dell'orrore sul terremoto. Titoli del TG3. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Renzi incassa la prima fiducia sull'Italicum e twitta grazie, ma la strada è ancora lunga. Domani altri due voti. Alla Camera clima caldo ma senza incidenti. 38 democratici, tra cui Bersani, Letta, Cooper, Lobindi, escono dall'aula, ma 50 di area riformista dicono sì alla fiducia. Trattative Berlusconi-Murdoch, Mediaset cerca alleati per Premium TV, stretta per la vendita del Milan al thailandese Mr. B, che stasera sarà ad Arcore Consiglio. In Nepal situazione drammatica, fuga dalla città, rischio epidemie, scontri tra la polizia e la gente esasperata, ma si trovano ancora persone vive sotto le macerie. Il Papa scandaloso che le donne guadagnino meno degli uomini e sulla crisi della famiglia, maschilista dire che è colpa dell'emancipazione femminile. Europarlamento sia quote nazionali per ospitare i migranti, ma resta la norma che impone l'accoglienza al paese di arrivo. Juncker, errore chiudere Mare Nostro. Poche ore al via all'Expo di Milano, una scommessa per il paese, blitz della polizia contro gli antagonisti, sequestrate mazze, maschere, antigas e molotov. Siamo qui, 800240024, domandiamo Federico Milano, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Vai, dimmi. Allora, ciao. Senti, io volevo dire una cosa, che non esiste che però Parenzo venga sempre bistrattato così, perché bisognerebbe fare un'apologia di David. Bravo, poverino, bravo. Lì è l'unico che capisce qualcosa, che dice qualcosa di sensato. Bravo. Cioè, anche ieri quando ha parlato quell'imbecille che si è dichiarato fascista, guarda, io ti ho ammirato perché veramente sei stato da elogiare, perché non ti sei incazzato, non hai detto niente, anche se secondo me avresti dovuto, perché con certe teste di cazzo veramente non si può avere a che fare. Però allora secondo me te lo dovresti riprendere in trasmissione, dovresti... Ma chi? Perché dov'è andato? Scusa, non ho capito. Ma, vabbè, dai, ma è sempre qui? Ma che dici? Sì, ho capito, ma dai, cioè lo tratti sempre troppo male secondo me. Ma io non tratto male nessuno, no, ma, sono già ma non è vero, cose, ma non è vero, sì, c'è sempre da ridire su ogni cosa che dice, poverino. Ma che dici, ma di che stai parlando? Bravo, dai, bravo, su, Federico. Ma non dire stronzate, bravo, è sempre qui presente a battagliare. Ma dai, scassate tu, Beppe, poverino, tutte le volte che dice qualcosa tu gli adesso, dici poverino, che... poverino un cazzo, ma insomma questo non importa. Colgo l'occasione del compagno che ha telefonato in mio soccorso per ricordare a tutti gli amici radioascoltatori di donare il 5 per 1000 per i diritti di Roma e Sinti. Sì, sicuro, guarda. Destinare sicuro il 5 per 1000 all'associazione 21 luglio che si occupa, sì, appunto dei diritti dei Rom e Sinti. Basta firmare e inserire il codice 975985. Sì, non si fanno donazioni qua. Ugo da Taranto, sì, non dire stupidaggini. Ugo, dimmi. Pronto? Allora, Cusani, premetto, sì, che vi seguo sempre e vi stimo. Vai. Però ieri sei stato un po' maleducato con quella signora, hai perso un po' il controllo. Quale signora, scusa? Quella che dice, quando quello che gli hai detto di andare a fare ad avere rapporti sessuali con gli animali. No, ma era una provocazione quella là. Ma figuriamoci, capito, trovo i rapporti, vuol dire, questa roba qui è orrenda, nemmeno la pronuncio. Però l'hai detto, vai, io ti ho sentito. Ma ho capito, la signora è intervenuta augurandosi altri terremoti per il Nepal e dicendo con gli animali, sì, ma che modi sono? No, però lascia perdere i modi. No, scusa, i modi, io voglio chiudere questo. Ma Ugo, lascia perdere il problema, andiamo alla sostanza dei fatti. No, la signora ha detto che gli animali hanno più, addirittura sono meglio degli uomini. E allora ci andasse a letto. Allora andasse. Perché che non hai risposto così al Pete che ha detto che vuole ammazzare Renzi? Ma beh, sì, ci siamo incazzati. Comprende. Allora, direi che ha preso il controllo. Ma che c'entra? Ma sono due cose diverse. Dai, no, smetti. Ma, senti, quando ti ammetti? Il prete. Non l'hai detto. Ma abbiamo. Perché non te l'hai detto? Io lo stavamo dicendo, Ugo. No, l'hai trattato con gentilezza. Ma quale gentilezza? No, ma è così, scusa, ti senti al telefono. Guarda, se hai perso il controllo, credo. Ho perso il controllo quando ho detto devi andare. Scusa, la signora, ma non chiedo scusa per niente, una pazza scatenata che si augura i terremoti. Un conduttore del quale tu sei così, sì, importante, non può permettersi di dire alla signora vai a letto con i cani. Non è possibile. No, ma io ho detto. Ma chi è rimasto scioccato? Ma chi? Noi, i tuoi amici, noi ti seguiamo sempre perché viaggiamo. Ma Ugo, abbi pazienza, l'ho detto semplicemente, scusami, adesso non è che. Ma non mi devo giustificare. Oh, ma ti vuoi calmare o no? Ma calmati un attimo. Siamo rimasti delusi. Oh, ma calmati un attimo. Io alla signora. No, era... poi sentendo con la oddio, il prete. Lei gli ha il culo al prete. Ma figuriamoci, dai. È più grave un prete che dice. Ma certo che è più grave. Ma non gli ha detto un cazzo. Come non dice un cazzo ma a Sgarbi, un truffatore condannato. Inviti Sgarbi, chiedi parere a Sgarbi, un condannato. Ma non lo invitare. Ma diglielo in faccia Sgarbi che è un condannato. Basta. Come no? Perché chiamalo, chiama Vittorio, dai. Non lo sai che ha due condanne, una per truffa. Chiamalo. so, certo che lo so, certo che lo so. No, perché lo inviti, vediamo, dice, come se, ma vediamo se hai il coraggio. Ma perché che vediamo, sempre di sgar, ma come no? Vediamo come se hai il coraggio, vediamo, ma adesso non te lo chiamo. Coraggio, l'errore è il tuo, non di Vittorio. Adesso l'errore te lo chiamo. È tuo, ma l'errore è il tuo. Ma come, che devo dire io che ho visto sempre che condannare, condannato. Aspetta, aspetta che te lo chiamo. Aspetta che te lo sì, chiamo. Ma che devo dire io? Che io lo chiamo, non ho paura. No. Ma cosa devo e dire? Forza, affrontalo, affrontalo, affrontalo. Ma l'affronto, ma cosa c'entra? Sei tu che non devi chiamarlo. Tu chiami truffatori. Io chiamo. È pieno di truffatori. È pieno di truffatori che chiamo. È come che se chiami Bagarella o Totorino a dare dei pareri sugli omicidi. Aspetta, affrontalo, affrontalo. È un'altra cosa. Io sono in casa. Affrontalo, affrontalo, affrontalo. Non andare a Rete 4 a parlare a quella trasmissione schifosa di calcio. Affronta. Con Nughini, che negazionista, che ne chiamano. Non ti vogliamo vedere lì, Cruciani. Quella Rete 4, quella Italia 1. Aspetta, sì, sul calcio, tutti Ugo, rispondi a Sgarbi, diglielo in faccia a Sgarbi, eccolo qua. Ti offro l'occasione, vai, vai. Ma certo, ma qual è il problema? Non la prenderà benissimo, temo, però insomma. Mi avvisi perché non sento bene. No, e non sento bene, non una mazza, bene, aspetta. Vedrai, sentirai. No, dico, mi avvisi tu quando sono con il regolamento con vedrai che lo sentirai. Ho paura, mi tremano le gambe. Vedrai. Una paura. Ti batte come un tappeto, vedrai. Ma che mi batte? Che mi batte? Mi devi dire come fare tappeto, la parolaccia, mi devi dire capo, affronto. Come se sei contento tappeto, tu di fare cretino, così. Capo, ma non dire cazzate, Ugo. No, ma così, ma smettila, non sai nemmeno. Guarda, ho avuto anche troppa pazienza fino adesso, perché ti ho lasciato dire quello che volevi. Ti ho lasciato dire quello che volevi per la libertà senza replicare, perché ero sopra pensiero. Hai detto una marea di cazzate, capito? Una marea di stronzate. Io chiamo chi mi pare. Chiamo bene, chi mi pare, capito? Sì, anche i truffatori, a maggior ragione sì, chiami i truffatori, capito? A maggior ragione li chiamo. Ma stai zitto, non capisci? Ma mi devi dire tu come si fa la radio. Mi devi dire tu. Mi fare oggi. Ma sei un giornalista serio, sì. Ma io faccio quello che mi pare, ma che c'entra il giornalista serio? Fai cazzate a volte, Ma tutti le facciamo le cazzate, chi sei tu? Ma quale? Ma cosa? La signora era una provocazione. No, lei ha detto fai l'amore con i che non l'ho mai sentito. Dopo rimettete la signora dopo, fermo Ugo. Sentitela. Ma che cosa? Non l'hai sentita? Ma hai sentito un conduttore che dice di fare l'amore con i cani, una signora? Ma sta prendendo sul serio questa roba? Ugo da Taranto, sei così rincoglionito, sei così stupido. Tu sei un amante di odio. Se ti sei portato, tu non puoi permettere. No, ma tu ti stai incartando da solo, perché? Ma io mi sto incartando. Ti stai incartando solo, perché? Ma che c'entra Sgarbi? Stiamo parlando di un'altra cosa. No, per dire. È impazzito. È impazzito. Mi dispiace. È impazzito. Vabbè, è impazzito, che devi fare? È impazzito. Ugo, se ti ha dato fastidio, pazienza, ti do fastidio. Ma non solo a me. Ma ho capito, ma è una era. Senso di livello. Oddio, era una provocazione. Ma quelle provocazioni, ti sei incazzato con la signora. Ti sei proprio incazzato. Era un modo per dire, ma veramente, se l'hai presa sul serio questa cosa, hai problemi tu, ma, perché era un modo per dire. Ma non c'è niente sul serio. Hai detto, intendarato. Ma non è. Ma era un modo. Signora, fai l'amore con i cani. Ma non ho detto, se sei coerente, se sei coerente. Perché non hai offeso il prete prima? Perché non hai offeso il prete? E perché non ho fatto questo? E perché non ho fatto quest'altro? E perché? Ma mi dispiace. Sei un letteculo e ridi, però. Ma con chi? Adesso chiudimi il telefono in faccia, perché ma non te lo chiudo, figurati. Certo, perché sono un pazzo. Fermo lì, Ugo da Taranto, fermo, sei il numero uno, fermo. Grande prezzo. Zanzara. A proposito di fiducia, Renzi, Italicum e quant'altro, qualcuno ha fatto l'esperimento che volevamo fare noi, quello con gli italiani, la parola Italicum. Mi mandate qualcosa se c'è? C'è o no? Avete capito cos'è l'Italicum? No. Vagamente? No, ne. Che cos'è? Che so, che è un dream. Signora Carpio. un treno, bellissimo questo. Una signora interrogata per strada, credo fosse Ballarò, signora Cecilia Carpio. Vabbè, ma non c'è bisogno di dire chi è stato, ma chi se ne frega. Uno fa un pezzo. Ma ho capito, ma chi se ne frega? Ma sei sempre nello stesso circolo di persone, cioè una cosa autoreferenziale. Quando tu fai una cosa, ma qui non dobbiamo riferire tutto. Zanzara, ma non dobbiamo riferire tutto, altrimenti te ne saremo tre ore qua. No, ogni tanto. Allora, Ugo, io non ho capito ancora che cosa vuoi, Ugo. Non ho capito. No, sto qui ancora, parlo con te. Sì, cosa vuoi? Perché è la prima volta, non conosco i meccanismi. Ma non c'è nessun meccanismo. Io alla signora ho detto che avvisami, pensavo avessi chiuso. No, ma stai tranquillo. Allora, alla signora. No, adesso mi cambio pure io. Ma sai perché mi sono deluso? Non perché io sono. Ugo, alla signora ho detto. Alla signora ho detto. Ferma un attimo, la signora ha detto: siccome pensi che animali e uomini sono la stessa cosa, allora vai fino in fondo, fai sesso con gli animali. Ma non è una stupidaggine, dai, ma non è una stupidaggine, è una prova. Ma scusa, ma tu devi ammazzare il prete prima, devi ammazzarlo il prete perché è molto più grave che un prete. Prete dice, non ti preoccupare, a parte che avevo la pubblicità e l'interruzione che incombeva, che mi rompeva i coglioni con la musichetta sotto, che la vorrei ammazzare con la musichetta del cazzo. Perché ci fai compagnie, noi ci sentiamo sempre, perché noi siamo viaggiatori, no? Se ho tu capito anche tu a questi livelli, ma non c'è nessun livello più. Amico non mio, non andare a Rete 4, ti stimiamo, ma che c'entra troppo. A parte che Italia 1 non c'entra niente. Scusami, hai ragione, se vai Italia 1 ammazza quel calcio, di la verità sul calcio, che è tutto un blef, che è tutto, ma che c'entra tutto un blef? Ma perché non lo penso che è tutto un blef? Non è vero che Mughini nega quello innegabile. Ma lascia perdere Mughini, non mi toccare Mughini, se no ti ammazzo. Infatti non è vero, io sono juventino e pallato, ma cazzo, ma sono una persona seria. È successo quello che è successo? No, non è successo niente, e viva Moggi. Ma insomma, il primo deluso sono io. Vabbè, ma che vuoi da me? Io ti faccio un appunto, perché ieri siamo rimasti delusi. Ho detto, non cadere più a certi livelli. Alla ma fine, non c'entra, non c'entra, i livelli ma non c'entra niente. Ma io non ho mai sentito una cosa del genere. Beh, non l'hai sentito, che te devo fare? Ma che c'entra? Ma era una... Hai caduto di livello, dai, su. Fammi parlare con Sgarbi, che dico due a quello. Hai visto che aspetta, richiamatemelo, dai. Sono costretto, ammazzato Costanzo, così se lo merita Costanzo. Lui l'ha creato e mo si prende pure il favo a fanculo da quell'idio. Tra l'altro, Cruciale, tu sei d'accordo con me? Perché io ti ho sentito dire tanti anni fa, perché ti seguo, dimmi. Che dietro la sua dialettica poi dice cazzate. Hai ragione. No, Sgarbi, non mi toccare nemmeno Sgarbi. L'hai detto una volta, hai detto, lui si è pure incazzato quando eravate l'uno contro l'altro. Hai detto, guarda, siccome tu sei molto bravo dialetticamente, bisogna poi analizzare quello che dice, infatti dice cazzate. Perché lui si maschera dietro questa grande dialettica per dire stronzate, capito? Anziché dire, vabbè, guarda, Ugo, io a me mio figlio quando, non me frega niente, vabbè, quando... Costanzo ha detto che lui è nel giusto, perché non è che significa, non me ne frega niente mio figlio, punto. Ma più o meno ha detto questo, No, ha detto gli altri, no, non giudicare gli altri. Vabbè, sono stai a giudicare i rapporti tra Sgarbi e figlio, vabbè, no, è vero che... tu mi hai detto Sgarbi, capito? Io, vabbè, parliamo di Sgarbi, ma non voglio parlare di Sgarbi, non frega niente. Vabbè, Ugo, aspetta un attimo, allora, tu stai qua, non te ne andare, quando troviamo... No, stai qua, però, quando troviamo Sgarbi, quando troviamo... Ma che cazzo c'hai da fare nella vita? Che fai adesso, per esempio? No, io sono in macchina. Perché stai in macchina, però. Sono viaggiatore e ti sento sempre, quello. Ma che fai nella vita? Agente di commercio, purtroppo. Beh, sei il numero uno. Per che azienda? Non si può dire, lascia perdere. Dici. Ma guadagni la grana oppure no? Oppure prima, adesso è un periodo di crisi. È morto di fame, stai. No, mostri fammi, ma no, però un'altra cosa, tu che sei un giornalista serio, il problema serio qua non è, il secondo è l'economia, la prima è la corruzione. Se non si mette a posto quello, non parte l'economia. Lo sappiamo, anche quello. Ma dimmi uno che va in galera, cioè, mannaggia la miseria. I colletti bianchi non vanno in galera. Te battiti per questo, perché qua va a finire male. Ugo, resta lì. Claudio da Pisa, vai Claudio, vai. Oh, ciao carissimo, basta con questi animalisti. Senti, io ho risentito la notizia che l'ha data ora il TG3, la sono sentita l'altra volta, del Papa che ha condannato lo sfruttamento delle donne che a parità di lavoro percepiscono una paga diversa, no? Sì, come no. Ok, ma io se avessi la possibilità di potergli parlare, cosa che non avrò... Beh, guarda, non è difficile perché il Papa chiama tutti, per cui... Fai un appello da qua, chiama Claudio da Pisa. Sì, ascoltami. Dimmi. E io gli vorrei parlare di tutte quelle donne che lavorano per la Chiesa. E allora? Cioè, le persone che fanno. Vabbè, ma ci sono, c'è gente che fa il volontariato, Claudio. Che fanno pulizie. Lavorano a gratis. Non è un problema, francamente. Scegliono di farlo. Dentro, ma tutte le persone che fanno pulizie nei centri di culto e compagnia bella, ma quelle come le pagano? Ma non lo so, Claudio, non ho idea, certo. Sono le cooperative. La donna all'interno della chiesa. Lo so che sono cooperative, ma sono cooperative che non gli danno un cazzo, gli danno delle fate da fame. Ma ragazzi, il Vaticano che parla dell'uguaglianza tra uomo e donna e degli stessi diritti tra uomo e donna è una cosa ridicola. Dai. Il Vaticano, cioè la Chiesa cattolica, che parla delle donne, dell'uguaglianza tra uomo e donne, è una cosa che non si può sentire. Dai, adesso io sarò anticlericale, sarò anti-Vaticano, sarò estremista su questo, però non si può sentire, dai. Cioè... Una cosa velocissima, Parenzo. Senti, ma come mai Israele di profughi non ne prende un po'? Visto che girerebbero l'angolo e sarebbero lì, non attraverserebbero nemmeno il Mediterraneo. Guarda che non è non è esatto che non ne prendono un po', perché hanno se tentassero di arrivare in Israele, ha voglia a cannoni, ha voglia a cannonate, amico mio. No, non è vero, perché ad esempio anche in passato in zone di guerra ci sono dei ponti aerei di solidarietà per vedere se lo riprendere a cannonate, bravo. Ma quale cannonate è una stupidaggine, perché anche in passato hanno organizzato anche con l'Eritrea dei ponti aerei per gli ebrei, Nicola da Teramo, dai. Non solo Nicola, vai. Assolutamente non è vero. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Vabbè, a parte tutta sta gente qua che telefona, che parla del terremoto in Nepal, gente che ci fa le pere, e poi siamo a Radio 24, vabbè, uno spaccato dell'Italia, fate bene a mandarli. Ma guarda che non è uno spaccato, cioè questi qua pazzi animalisti, vegani, eccetera, davvero pensano che in fondo chi pratica certe cose, no, ma in fondo lo pensano tutti. Ho due amici vegani, sì, d'accordo. Se non è gente drogata questa fantastico. Che assume soltanto stupefacenti pesanti, che cosa... Come l'altro vogliamo gente da ricovero, però vabbè, esiste pure questo. Da ricovero, vabbè, comunque che non sta bene con la capoccia. Io una cosa volevo dire, volevo riferirmi a una cosa che avete detto all'inizio, tu, Cruciani e Parenzo, per quanto riguarda il fatto, dicevi tu che la legge elettorale così come l'ha proposta Renzi, tutto sommato andrebbe bene, avvantaggerebbe il Movimento 5 Stelle, e Parenzo giustamente ha detto però loro non la votano perché non potrebbero avallare in quel nessun modo Renzi. Ma allora io mi chiedo, no, se questi qua si comporta, se un movimento si comporta come il marito che per fare rispetto alla moglie si taglia le palle. Ma loro hanno proposto un'altra legge elettorale, non sono d'accordo con il premio di maggioranza e tutte queste robe qui. Fermi tutti. Evitare. Però sono queste cose. Fermi. Ugo? Sì? Ecco. Vittorio? Scusami, no, c'è un tizio prima che ha chiamato. Tu non c'entri niente, un tizio che ha chiamato. No, Ugo, tizio, mi chiami, non aspetta. Mi chiami tizio, coglione. Ugo da Taranto. Bravo, no. Di cazzo. Ugo da Taranto, che ti voleva dire? Non ti permettere più di chiamarmi tizio. Vabbè, un tizio uguale, dai, Ugo, no, dai. No, tizio sei tu. Oddio, che palle. È un tizio che se la prendeva con te, non so perché, Ugo. No, me la prendevo con Cruciani che ti invita. Ma dillo in faccia, Sgarbi, dillo in faccia. Ma cosa devo dire? Che Cruciani fa male, tutti fanno male, di invitare uno che ha due condanne per truffa e per calunnia, e chiedo a parere a lui di quelle cose, che adesso a parere a lui sull'arte, che tra l'altro manco se ne intende, perché uno di quelli. Vabbè, ma tu sei pazzo, ma perché non bisogna Vittorio, Vittorio, di qualcosa a questo Ugo da Taranto. Ma come se tu chiami Totorina da chiedere un parere sugli omicidi, cosa chiedi a dare pari di saggi a Sgarbi che è un condannato? Vabbè, ma io non lo so, cioè, che... questo è il discorso. Chiama Totorina e chiedi parere su ma che c'entra Totorina con Sgarbi? C'entra Totorina con Sgarbi? Perché tu chiami Sgarbi per chiedere pareri saggi sulla corruzione, sul resto, su un condannato. Non di tutti, ha un condannato, ha un condannato. Ma che c'entra? È stato condannato per altre cose. Per truffa e per calunnia, oh! Ma vatti a informare. Vabbè, Vittorio, rispondi tu, per favore. Ma che devi rispondere? Vittorio. Non mi frega me di parlare con Vittorio Sgarbi, non frega niente. Tu me l'hai detto, chiamalo. Sì, no, bugiardo, lei che ha dovuto chiamare tu per fare audience. Vittorio. No, con te che lo inviti, non con Vittorio. Guarda, ma io Vittorio fa bene a venire. Aspetta, fai. Io sono invitato ovunque. Esatto. Vado da qualunque parte. E ma bravo, condanne stai zitto un attimo. Stai zitto. Per una questione che riguarda un'assenza stipendio, l'ho detto mille volte. Vabbè, lascia perdere, non entrare nel dettaglio. Dice delle coglionate, si dimentica che sono condannato Pasolini, Caravaggio, Gesù vada a darvi al culo, questo imbecille. Ugo. Come te. Hai capito? Cretino. No, per pari, come pari la storia. Per Caravaggio, ma cosa ha condannato il buco del culo? Imbecille. Sei stato condannato in casa tua. Condannato a nulla. Ma non sei stato a nulla. Tra l'altro, non capisci un cazzo neanche di arte, perché sei stato uno di quelli. Va bene. Ascolta, io a te. Bravo. Ti chiedo €1.000.000 perché la mia professionalità bravo. La tutti. Bravo, bravo, bravo. Ma cosa stai dicendo? Sei un calunniatore? Non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli che ti invitano. Sei una grande mostra. A Bologna, la signora Brandi, falla vedere, studia, recensito sul Corriere come la più bella voce di tutti. Sei stato condannato, ti chiedo pareri. Ignorante, ignorante. Ecco, bravo, fai odio, scusate, fai odio, sai. Ma che non lui, tra l'altro non capisce niente di arte. Sai perché non capisci niente di arte? Perché sei stato uno di quelli che ha detto che Modigliani lo scherzo era autentico. Io sono l'unico che ha detto che non erano buoni. Non è ricordi vero, male. Tu già l'hai detto che era autentico. Quindi manco di quello capisci un cazzo. Bugiardo. Vai a vedere le tue che è quello che hai detto. Capito? Non capisci un cazzo. Tu c'hai soltanto. Vabbè, Ugo, però basta adesso. Va bene, basta. Fai che prego. Certo. Sì, sì, lo chiudo. Basta, Ugo. Io non ho nessuna condanna. Sei parlato con un condannato per l'odio. E basta con sto condannato. Io invito chi mi pare, Ugo, capito? Non c'ho, invito chi mi pare. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Gente di questo genere, tu non la fai parlare. Ma ho capito, ma se parla allora, che devo fare? Lui dice una menzogna assoluta. Ma ho detto, ma l'ho detto. Oddio. Le teste di Modigliani erano false. Ok, ha benissimo. Ha mentito e lo querelo. Bene. Dai, l'indirizzo e lo querelo. Ottimo. Ottimo. Quanto tutto il resto, che io non sia competente, è smentito. Ma non c'è bisogno di replicare, Vittorio. Dai, non c'è bisogno di replicare uno che dice che non te ne intendi di arte. Su, dai. Che bisogno c'è? La calunnia che è la sua. Ma non c'è bisogno. Quanto arresto, la condanna grottesca. Vabbè, ma l'abbiamo già spiegato. Ma l'abbiamo già. Essere stato assente senza stipendio. Non può essere in alcun modo allegata a qualche modalità Totorina, altra querela. Appunto, Totorina, ti ha paragonato a Totorina, ma questo qua sei. La sua madre a Totorina, questo imbecille. Va bene, dai, ti abbraccio. Ma non ti scaldare arresto, troppo, che stai all'Expo, non ti scaldare arresto, troppo. Dai. Caravaggio sì, sì. È stato condannato ed è Caravaggio, quindi non me ne importa nulla. Va bene, Vittorio, però adesso stai facendo cose serie all'Expo. Socrate è stato condannato. Stai facendo cose serie all'Expo, non ti scaldare troppo, dai, ciao. No, non chiamate di più, dimenticate che no, ma che c'entra, dai. Ma che c'entra, ma è quello. Mi contro uno che dice delle idiozie, senza nome. Ma ho capito, ma se, allora, vuol dire, se questo qua ha detto, Sgarbi è uno, perché chiamate Sgarbi? È stato condannato per diffamazione con sentenza definitiva, anche Travaglio, per ma dire certo. Un nome che gli piacerà, però non deve più parlare Travaglio. Quale logica è? Vabbè, ma siamo tutti d'accordo, ma non c'è bisogno, no, dai, fai su. Parlare con degli ma non ti faccio parlare, ti abbraccio e ti bacio, dai, presto, ciao. Ugo? Sei formale sui sgarbi, Cruciani? Basta, dai, su. Basta, hai rotto, dai. Che ti dice questo? Adesso hai scocciato, dai. Ma hai fatto audience? Ma non lo so, non mi interessa, dai. Ma anche sui pareri di sgarbi no, su Modigliani. Basta di Modigliani, sennò veramente entriamo nella. Certo, perché non puoi sputtare il tuo pupillo che ti fa fare audience, vero? Non puoi sputtarlo fino a questo punto. No, Modigliani, amore, io sono un avvocato. Altro che agenti con me, non mi freghi. Non ti puoi sputtare, vatti a informare il giornalista e poi vediamo. E querelami. Il nome e cognome adesso, è impazzito questo. Se io ho sbagliato mi quereli. Vabbè. Ma se no ma tu chi ti querela scuso. Ma me ne frego no ma. Se io ho sbagliato allora non puoi chiudere me ciao ma che... chi sta chiudendo hai parlato bravo. 20 minuti che parli Ugo allora tu devi dire se è vero che quello ha detto il parere negativo su Modigliani o no ma ho capito è ma vero. Non mi interessa non mi interessa no, non ti interessa sapere che sguardi non capisci un cazzo neanche di arte a te ti imbambola perché tu sei non c'è la laurea a me uno che parla bene devo sento quello che dico la non come lo dici ciao certo, ciao so. Ciao capito? Ciao bello, ciao. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Forza. Umberto, provincia di Rimini. Pronto? Dimmi caro. Pronto, dimmi, buonasera, dimmi. Ciao. Ciao Giuseppe, volevo intervenire sul discorso appunto della signora animalista e quant'altro, no? Diciamo che comunque il mondo non è il nostro. Le miserie dell'uomo alle quali assistiamo ogni giorno, sì, purtroppo, sì. sono dovute anche un po' a queste cattiverie. Ora che Tremozzo è chiaro, è stato mandato dal divino per condannare gli uomini, però magari questo signore infatuato, quello che sia, comunque voglio dirti che l'uomo, il mondo non è solo il nostro, gli animali è vero che ci siamo per cibarci, però è anche vero che questi allevamenti intensivi oggi come oggi, e ci sono le prove, fanno malissimo, e comunque gli animali sono in più di quello che ci serve. Tu sai che per fare un animale quanti litri, quintali di acqua ci vogliono, guarda, quando invece in un campo tu sei, molto meno, tu sei padrone arrivare... di fare quello che ti pare della tua vita, non mangiare gli animali, pensare che mangiare gli animali significa comunque distruggere il mondo, quello che vuoi. Tu sei, comunque, Giuseppe, sei padrone di fare quello che vuoi. Comunque gli animali è vero che hanno dei sentimenti, che poi che sia buono, perché io fino a 2 anni fa va benissimo, ma cosa c'entra questo? Scusa, ma cosa c'entra col terremoto? No, perché la signora diceva che è una calamità che Dio gli ha mandato, no? Allora? Una punizione, ma perché ammazza. Non la penserai mica allo stesso modo tu? No, assolutamente no. E allora? Però voglio dire, è anche vero che gli animali, come tu li descrivi la situazione, come se facci che cazzo se ne frega degli animali, ma no, non ho detto questo, non ho mai detto nulla, ma assolutamente non ho mai detto questo, non ho mai detto questo, non ho mai detto questo. E comunque voglio dirti che se l'uomo non comincia un attimo la razza umana a prendere coscienza un po' di tutto quanto, sì, certo, allora andiamo in rovina. Se continuiamo a mangiare animali, se continuiamo a mangiare carne, andiamo in rovina. Benissimo, ecco la cazzata. Ma non c'è nulla di indiscriminato. Dai, su, non diciamo ma gli allevamenti intensivi. Tu sai benissimo che il Costa Rica ha fatto una fortuna. Ha fatto una fortuna sul fatto che è il paese al mondo dove c'è più razze animali, dove tutti gli studiosi del mondo vanno lì per allora? E quant'altro. Fatto una fortuna e ne mangiano di carne pochissima, perché poi non c'è bisogno di mangiare carne al giorno d'oggi, no? Le proteine, tutto quello che ci serve. Sì, ma se non vuoi mangiare carne, la mangio io, non ti preoccupare. Importante è che non mi dici che sono un assassino che affama il mondo o che manda in rovina il mondo. Capito no, o no? Oddio, no, in parte però sì, con gli allevamenti intensivi in parte mandiamo in rovina al mondo, perché l'acqua che serve per un allevamento intensivo è spropositata rispetto a un allevamento vabbè, ho capito, grazie. Francesco Palermo, vai. Salve. Dimmi, Luciani. Francesco, dimmi. E allora, no, niente, mi sono accorto che ogni volta che c'è Sgarbi che praticamente ti minaccia, non essere più presente alla tua trasmissione, ti proprio ti caghi addosso, La prima volta mi cago addosso, una trasmissione TV. Sì. E sì. Poi adesso tu appena esce, perché lo fai parlare a quel radioascoltatore? Lo fai parlare, io non partecipo più. È 20 minuti che ha parlato l'ascoltatore. Ha parlato per 20 minuti. Significa? Ha parlato per 20 minuti. A un certo punto gli ho detto: adesso ti faccio parlare con Sgarbi. Hanno litigato, ma che volete da me? Ma che volete da me? Cioè, ma che volete da me? Non ho capito. Cioè, che volete da me? Ma ti caghi addosso quando Sgarbi. Ma figuriamoci, l'ho attaccato mille volte su tutto, sul vitalizio, su altre cose. Dai, su, ma, sul film. Ma smetti. Guarda, io ti ammiro tantissimo. Sì. E magari non posso accettare la presenza. Scusa, ma se io sono d'accordo, la maggior parte delle volte con quello che dice Sgarbi, ma che vuoi da me? Non ho capito. Cioè, ma che significa? Ma non cagarsi addosso. Ma cagarsi addosso dove? Quando? Ma chi si caga addosso? Ma dove? Ma dove? Ma che dove? Ma dove? Ma dai, ma finisci. Ma dove? Guarda, dove? Stava ogni sera. Ma stava litigando con quello. Stava litigando con chi? Ma quando litigano due. Guarda, ci fai le trasmissioni con le litigate. E allora? Però poi addosso proprio quando Sgarbi ti minaccia. Ma minaccia di che? Più. Ma mi dice sempre così e poi non lo fa mai. Ma è una vita che lo dice, non mi chiamare più e poi lo chiamiamo sempre. Ma quanti radioascoltatori ci sono che ti seguono? Beh sì, per fortuna e sì. E la pensano tutti alla stessa maniera. E pazienza, allora. Perché che davanti è palese questa cosa. È palese. Questa cosa è palese. Ma che cosa vuoi? Allora, andiamo nel merito. Che cosa vuoi che gli dica Sgarbi? Spiegami. Cioè, vai nel merito di una cosa. Non dire cazzate, cali le braghe. Dimmi una cosa. Dimmene una. Ma dimmene una. Dimmene una. Dimmi una cosa su cui. Ma dimmi una cosa su cui calo le braghe. Ma dimmi chi. No, io tratto le persone in maniera diversa. Chiaro? Tratto le persone in maniera diversa, chiaro o no? Sgarbi è un ospite di questa trasmissione. Altri non sono ospiti di questa trasmissione, è chiaro o no? Sgarbi è un mio amico. Sgarbi è un mio amico. E allora? Sgarbi è un mio amico. E allora lo tratto in maniera diversa. Ma che cosa vuoi dire? Quando sbaglia e dice cazzate, glielo faccio notare. E no, quando non la penso come. Vabbè, Francesco, ascoltami, tu qua, questa è l'unica trasmissione. Non la sto chiudendo. Sono 4 minuti che stai parlando. Stai parlando da 4 minuti. Ti lascio dire quello che voglio. Ed è l'unica trasmissione. Ti ho messo in un angolo, certo. È bello, bellissima questa risata. Mamma mia, mamma mia. Ti ammiro sempre. Ti ho messo in un angolo, che paura. È la verità, credimi. Vattene a casa, va. Ciao, Giulio da Caserta, ciao. Giulio. Allora, come bravo conduttore di questa trasmissione, no? Fai parlare un po' tutti, fai esprimere un po' il ma pensiero. Sì, mi faccio tirare le pietre addosso, ma che me ne frega a me di quello che dice lui sul mio rapporto con Sgarbi? Se che non sa niente, Come sei il padrone di casa, no? Volevo chiederti se è opportuno esprimere una mia esperienza su un barbecue ben riuscito, come si deve fare? Un barbecue ben riuscito? Sì, un bel arrosto, come farlo? Perché è una tradizione di cucina, scusi. Vuoi raccontarci come si fa un bel arrosto? Perché democraticamente abbiamo ascoltato questi vegani e questi animalisti, per fare un chilo di carne ci vogliono 100.000 litri d'acqua. Adesso io ti voglio dire, per assaporare bene la carne, come si può cucinare. Come se si me può lo cucinare? Permette il padrone di casa, te lo posso dire? Sì, dimmelo, vai, veloce però. Allora, ascolta, velocissimo, se prendi degli arrosti, no? Di quarto, di filetto, di maiale, di carne di cinghiale, prendi una teglia. Perché adesso c'è bisogno di queste ricette? Spiegami un attimo, fermo. Sei sceso di livello! Ma stavo scherzando! La zanzara. Perché ti cadi sotto, sei un leccaculo e mi dispiace! Sei un leccaculo e ridi, però non sai che dire! Adesso chiudimi il telefono in faccia perché sono un pazzo, dai! Allora, nei giorni scorsi Loredana Bertè, caro Parenzo, ha detto delle cose terribili durante la... In realtà erano state già dette da Loredana Bertè in diverse occasioni, durante il Maurizio Costanzo Show, quando c'era anche Sgarbi col figlio, eccetera, eccetera. E mio padre picchiò mia madre, incinte, uccise mio fratello. Mimì, cioè mia Martina, è stata l'unica famiglia che abbia mai avuto. Era un babbo bastardo, non l'ho mai chiamato né padre né babbo. Lui odiava le donne e ha avuto solo figlie femmine. L'unico maschio che avrebbe potuto avere l'ha ucciso prendendo a calci mia madre durante l'ultimo mese di gravidanza. Poi nel passato ha detto anche che addirittura a provocare la morte di mia Martina è stato il padre Giuseppe Bertè. Allora, abbiamo provato a chiamare oggi pomeriggio il signor Giuseppe Bertè. Ne è uscita fuori questa cosa. Salve, Cruciani, Radio 24. Signor Bertè? Sì. Senta, lo sa che sua figlia Loredana Bertè in una trasmissione di recente... capirai, è una delle sventure più grandi, perché quando una figlia, a parte il fatto della depravazione morale, che si è depravati moralmente, quando addirittura si sospetta e si urla che il padre è stato quello che ha fatto morire Mimì. Ma scusi un attimo, che vuol dire depravazione morale? Quando questa disonesta si permette di chiamare il padre brutto bastardo, che cosa ne vuole di più? No, ma ho sentito in televisione, ha detto non vedo l'ora che mio padre crepi. Sì, certo, e con questo adesso che faccio? Che ne so, come l'ha sentita lei questa trasmissione? Sì, l'ho sentita, vita e l'ho vissuta e non le dico in che condizione mi sono trovato. In che no, perché non è la prima volta, perché la prima volta con l'avvocato mio abbiamo fatto anche querela. E adesso? Però ripeto, ecco, il discorso è stesso, dovendo andare in tribunale, poi passano gli anni, eccetera, con l'avvocato ci siamo messi d'accordo, anche l'avvocato di lei che ha desiderato pagare qualcosa pur di ritirare e abbiamo ritirato. Ora non voglio più ripetere la stessa cosa. Però in televisione le ha dato del bastardo, ha detto delle cose terribili. Va bene, oramai non insista più su questo, no? Cioè, gli ho detto già da primo che devo fare, basta. No, ha detto anche mio padre picchiò mia madre incinta, uccise mio fratello. Tutte le cose, però non ho capito lei con questa sua intervista che cosa vuole. No, io non voglio niente. Con le sue domande comincio già a infastidirmi. No, quando uno sente una figlia che dice era un babbo bastardo. Beh, basta, la saluto, arrivederci. Io parlo. Signor Bertè, poveraccio, 93 anni. Signor Bertè, 93 anni, Capito, ragazzi, quando uno viene messo in ballo, non è che si chiama, non è che l'idraulico sotto casa, si chiama Bertè, cioè è il padre di Loredana Bertè, di Mia Martì, eccetera, eccetera. Signore calabrese, 93 anni, abbiamo chiesto delle cose su un festival che ci sarà nel fine settimana in onore di Mia Martini e poi anche di quello che ha detto Loredana Bertè pubblicamente durante Maurizio Costanzo Show. Mica, che abbiamo creato noi la polemica? Non lo so. Va bene, 800 24 00 24. Laura Livorno, vai. Bravo, senti. Dimmi. Mi devo congratulare per il tuo spirito umanitario per il Nepal. Sì. Cosa che senso? Non hai mai dimostrato per gli immigrati che arrivano sui barconi, che ce la vanno a cercare, scusa, che ce lo vogliono. Ma che c'entra? E lì non c'è spirito umanitario, quasi non contano. Ma che c'entra, Laura? Cosa c'entra? Sono due cose diverse. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Non sono umani. Non sono umani quelli. Scusami, abbia pazienza. Laura. Ha ragione la signora, però no, ci vuole spirito umanitario. Veramente, io rom. I rom, te la cosa? Prendi con i rom che rubano, con i politici mai. Ma che stai dicendo? Se facciamo ogni giorno no, 40.000 cose contro i politici. Delle cose obbrobriose. Ma cosa obbrobriose? Abbiamo attaccato gli animalisti che dicono che se la sono meritata quella roba lì. Ma che vuoi da noi? Ma se stasera la sono siete impazziti. Le hanno spiegato che ci sono. Anche Flavia Vento, la sua amica, ieri gliel'ha spiegato. Cosa? Perché a volte prendono le parti degli animali, però con Flavia Vento non gli ha detto di andare a far sesso con gli animali. Oddio mio, ma non è che c'è la stessa reazione con tutti? Ma siete impazziti stasera? No, ma se l'è presa la signora. Ma ci vuole un po' di normalità, un po' di equilibrio, ci vuole o no? Beh, ha ragione, sull'equilibrio ha ragione. Se no andiamo al manicomio. Lei mi sa che ci siamo un po' vicini al manicomio, signora? No, sì. Standolina ha ragione, un po' di equilibrio in più ci vuole. Ha ragione la signora, per bene. La gente è sensibile. È sensibile, sì. Ma c'è gente sensibile, è sensibile con gli rom, è sensibile con l'Italia Nepal, è questa. E anche con gli animali che sono creature che soffrono. Ma e non hanno voce, certo. Se lo ricordi. Ma che però c'entra questo? L'Italia che è soprattutto questo, sì, non quelli che chiamano con stronzate. Odio e bava alla che bocca. C'entra, questa è l'Italia. Che c'entra, migliore. Scusami, Laura, cosa c'entra questa roba qui col terremoto? Però col terremoto non è, ma lo puoi spiegare o no? Però, cioè, che ma c'entra con gli immigrati? Perché ma non lascia sono perdere. Io sto, scusami, poverini. Scusami, cara Laura, io ti voglio abbracciare fortissimo, innanzitutto, molto forte. Io sono una donna di 73 anni. Vabbè, ma io infatti ho detto che ti voglio abbracciare, mica che voglio fare altre cose. Ma non per quello, dico, che fa? Sono alla Caritas 3 volte alla settimana. Ma fai benissimo, vabbè, ma non è posto. Ho capito, ma chi ha detto? Mi fa felice. Ma chi ha detto che non lo puoi fare? Amico, ha detto bisogna che dar voce a questa Italia, oltre che a quelli con la bava alla bocca, violenti, vabbè, capito, cattivi. Ma sta parlando infatti Laura. Ma no, perché c'è questa Italia qui, non c'è noi rappresentiamo, tu in particolare rappresenti soprattutto quell'Italia brutta, quell'Italia di Radio Padania, è brutto, quell'Italia di gente cattiva, che razzista. Brutta gente. gente che c'è. Livorosa. L'Italia è questa roba qua. Che brutta silenziosa, gente che alle volte prende il telefono e chiama. Laura, in giro c'è veramente della brutta gente. Ma certo che c'è brutta gente. Brutta gente, però tu non dai un buon esempio. Questo anche è vero. Tu sei forte, poi deboli, coi forti. Ma di che state parlando, ragazzi? No, in questo ha ragione, la signora è molto educata. Ma io sono la persona più libera del mondo. Vabbè, c'è, Laura, io non ho capito. C'è una trasmissione che è aperta al pubblico, potrò dire quello che penso. Beh, infatti, sono più spesso. Sono diversi minuti che lei sta intervenendo senza che io dico nulla o quasi. Meno male, è un par di palle. Vabbè, Laura, io però devo dirti una cosa, cara Laura. Voglio capire qual è il nesso tra la morte degli animali in Nepal e il terremoto, perché questo mi interessa particolarmente. Qual è il nesso tra le due? Non c'è nessun nesso. Ah, meno male. Però vedere certe scene. Sì. Queste scene non sono belle. Beh, allora? Perché quando si è tanto sensibili con gli uomini, bisogna altrettanto essere sensibile con gli animali. Vabbè, d'accordo. E allora i poveri nepalesi che cosa hanno fatto di strano? E allora, se non ha capito, colpa sua, mica colpa mia. No, ma ho capito, ma allora alcuni nepalesi praticano questa roba terribile di queste ammazzamento di animali una volta ogni 5 anni, una volta ogni anno, adesso non mi ricordo esattamente. Sì, appunto. E dunque per questo si meritano il terremoto? Ma c'è gente sensibile a queste cose. Abbiamo capito, lei è sensibile, abbiamo capito. Abbiamo archiviato anche questa cosa. Dunque che cosa fanno i nepalesi? Si meritano il terremoto? Si meritano la punizione divina? Nello spirito di queste popolazioni c'è il karma, e loro ci credono. Sì. Si ha voluto capire, avrà capito perché si dice che nesso c'è, ma io non ci credo. Però credo nelle persone che vogliono il bene di tutti. Va bene, nelle Laura. Persone come lei che dicono che gli frega un cazzo di tutto. Ciao Laura. A dormire, vai, ciao, insegna a tua figlia come si vive. Ma non mi rompere le scatole. Insegna a tua figlia come si vive. Ma non mi rompere le scatole, io insegno a mia figlia quello che voglio. Franco da Roma, vai. Franco. Ciao, buonasera Cruciani. Dimmi Franco. Ma stasera sappi ammattonare da tutte le parti. Che vuoi, sono abituato. Stasera ti è stato a far nero, Cruciani. Ma è nero, amico mio. È stato a massacrare. Devo fare una domanda, Cruciani. Ma ti piacciono le oche, le papere a te? Oche, papere, in che senso? Che ne so, hai dato un bacio a Flavio Vento, dai, per carità. Vabbè, Franco, andiamo al solo, su, dai, forza, che volevi? Sono animalista io, però sono sei animalista. Mangerei parenzo io, ma mangerei... No, quello è un'altra cosa, non è un'altra pratica. Io sono un cannibale, mi mangerei parenzo, animalista, ma sono cannibale, io parenzo mi mangerei tutto intero. Non è commestibile, diciamo. Così ne avevo uno, poi devo dare il numero del conto corrente mio, per bisogno, capito? Prima stavo a dare quelli di robe. Direi ridiamo, il 5 per 1000 per i diritti dei rom. 5 per 1000, mandami 1000 a me, chiatti 5 a te, cominciamo. L'associazione 21 luglio per il riconoscimento dei diritti dei rom e dei sinti. Chi vuole può dare il 5 per 1000. Il 2 novembre per te. Perché i diritti di rom e sinti sono i diritti di tutti. Destina il tuo 5 per 1000 all'associazione 21 luglio. Un negozio di pasta all'uovo, te. Bravo, tu dovresti aprire un negozio di pasta all'uovo e fai gnocchetti col culo. Ha fatto il battutore volgare. Va bravo. Sai, i stessi livelli di Flavio Avento. Bravo. Ancora chi rompe. 5 per 1000 all'associazione 21 luglio per i rom. Davide, innanzitutto è venuto. Aspetta, Franco, stai zitto un attimo. Dovrebbe venire a casa tua, pare. Ai prati a Roma che dovrebbe cascare a casa tutta intera e abitare insieme chi rom. Allora aspetta Franco, allora vorrei che questa cosa qua che soldi, vabbè, Franco, ma perché chiedi a noi il 5 per 1000? Dagli te che mica ce l'hai. A chi vuole, capito? A chi vuole i soldi, allora, che ce l'hai, allora, ma non ti è venuto, ma lui, dato, ma lui infatti io non li dà. Allora, no, non ho capito questa cosa. Dato per il Nepal, perché non gli dai i soldi ai rom? Come l'ho dato per il Nepal? Non dovrei dirlo, ma se ve lo chiede l'ho dato. Io non ho capito una cosa. Com'erano i gnocchetti per il culo? Non ho capito bene, Franco. Col culo dovrebbe fare gnocchetti col culo. Che vuol dire? Spiega. I gnocchetti come so i gnocchetti? E che ne so, sono tondi, morbidi. Così lui dovrebbe fare col culo. Ma perché vuol dire tecnicamente? Che vuol dire? Tiro l'altro bordo dietro, pieno. Adesso ho capito. Ecco, vabbè, bisogna spiegare pure a quelli non romani, no? Bravo, com'è la storia. Bravo, capito. Però io voglio capire una cosa. Non parlate. No, ma quando torni a casa, con che faccia torni dopo aver detto questa cosa qui? Cioè, io immagino i tuoi familiari che si vergognano come dei matti. Dico, mamma mia. Sì. Poveretto, mi metto nei panni dei tuoi familiari, guarda. Perché devi umiliare i tuoi familiari? Dici, ma che figura mi fai fare? Davide, ma che figura fai fare alla gente che ti conosce? Mi sembri come quella della ma con sera. Che faccia giri? Ragazzi, non potete parlarvi sopra, dai. Sventura, Simona Sventura, drag queen, di nome Giuseppe. Ma che cazzo così dici te? Come Davide fa sempre quella voce da frocio, fai, capito? C'ha ragione quell'altro l'altra sera che si chiamava frocio, capito? Quello sei te, quello, preciso. Ma perché preciso, ce l'hai tanto con Parenzo? Scusa, non ho capito, perché ce l'hai tanto con Parenzo? Spiega. Ma perché non si può sentire, dai, non si può sentire. Tu che mestiere fai, Franco, tassista? Ma io non capisco. Che fai di mestiere? Tassista? Il tipografo. Perché non si può sentire? Non si può sentire. Come ragiona, come la pensa? No, non capisco questa cosa. Non capisco questa cosa del conto corrente per i Roma. A parte che uno non è che alla radio dà il conto corrente così, perché altrimenti ne dovremo. No, tu non c'entri niente. Non è un conto corrente, ma non c'entri niente. Associazione. Ma perché? Ma quale associazione? Ma chi te l'ha detto? Se uno vuole. Ma chi te l'ha detto? Ma è autorizzato da chi? Dai, questa cosa. Ma autorizzato da chi? Lui per riconoscimento. Della ma non ho capito, ma autorizzato da chi? Dai il nome di un'associazione a cui dare i soldi, scusa. Se ma uno ma chi ha detto che? Ma certo, ma che allora ogni giorno ci mettiamo a dire date i soldi a questa associazione. Se uno vuole, ma che vuol dire? Che ma 5 per 1000 per i diritti dei Roma, senti, lo può fare. Ma scusa, non ho capito, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto che tu? No, ma io la reazione adesso è mia, non è dell'ascoltatore. Non c'entra niente, ma non ho capito, questa associazione è vera o uno scherzo questa roba qua? Allora, ma non ho capito. Perché tu devi dare il nome di un'associazione vuole, e dire ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha potremmo farlo per tante cose, ma chi te l'ha detto? Sarebbe giusto ma chi ti ha autorizzato? Ma chi ti ha autorizzato? Ma non me ne frega niente, io non lo do nemmeno per il Nepal. Chi ti ha autorizzato a dire il nome di un'associazione? Non è che c'è un'autorizzazione ministeriale. No, l'autorizzazione mia innanzitutto e poi l'autorizzazione della radio. Ma chi non vuole dare il 5 per 1000 lo può fare, come si fa per altre associazioni. Guarda che incredibile, cioè, Franco, rispondi tu perché io non so cosa rispondere. Perché se non risponde lui io posso rispondere all'imbecille del genere. No, ma lascia perdere, Vittorio, se uno vuole parole, lo fa, se non che vuole, ci detto, è il 5 per me, è il 5, dietro te, è il 1000, vale ma a me. Ma no, ma lascia perdere. Anche a qualcun altro, ai valdesi, alla comunità ebraica, puoi darlo a chi ti pare, puoi darlo, puoi anche tenertelo per te, puoi darlo ai partiti. Io non ho capito, vabbè Franco, stai zitto un attimo, io non ho capito una cosa, il problema è molto semplice, siccome in Italia ci sono migliaia e migliaia di associazioni, io pensavo fosse uno scherzo. No, allora, no, se uno dice il nome di un'associazione a cui dare i soldi con un conto corrente, ma non capito, ma dove stiamo qua? Cioè, se uno vuole, ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma che fai? La promozione di un'associazione? Ma dico, ma siamo pazzi qua? Pubblicità, dai. Ma su. Che commette reati? Ma che c'entra i reati? Vabbè, non hai capito, lo sai benissimo che cosa ho detto. Ma dai, che su. È Rina, vabbè, forse? D'accordo, dai. È Rina? Dai. È la camorra, e l'andrangheta? Vabbè, dai, passiamoci sopra, dai, forza. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Allora, effettivamente esiste un'associazione, com'è che si chiama, Parenzo, scusami? 21 luglio. Allora, l'associazione 21 luglio, non c'è bisogno che lo sottolinei ancora perché già abbiamo fatto troppa pubblicità. È una cosa benefica. Ma non me ne frega niente, valore. Ci sono tantissime cose benefiche. Ci sono, infatti, ce ne sono tante. Dire. No, io non le dico perché altrimenti dovremmo passare tutta la sera a parlare di associazioni Seccate benefiche. Seccate di attualità, dipende. No, allora, sul Nepal, ad esempio, non è male dire fate la donazione. Ma non me ne frega, Nepal. Ma questa non è una trasmissione in cui si dice fate la donazione. Tra un maleducato che telefona, come quel cretino di prima, è una signora gentile, uno lo allora, può anche io dire. Io ho no? detto semplicemente una cosa: questa associazione è un'associazione che effettivamente ha fatto una richiesta, credo, di, sì. perché siano donate, cioè, proprio così, cioè chiede agli italiani di dare dei soldi per i Rom, per la causa Sinti. No, per i Rom, cioè, è un'associazione che si occupa del riconoscimento. Cioè, beh, certo. Dai, su. Cioè, noi già paghiamo, dovremo pagare ancora attraverso 5 per 1000. I soldi che sono andati fino ad oggi per gestire la questione dei Rom sono finite nelle tasche di politici corrotti. Non sono finite per chiudere i campi Rom. Questo traffico, è successo. Traffico. Non mi far pensare a chi chiede soldi ancora per i Rom. No, ma è completamente diverso. Traffico. I politici hanno rubato più dei Rom e sulle spalle dei Rom. Vedi il caso Mafia Capitale, Roma Capitale. Traffico veicolare. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Pronto, buonasera dottor Cruciale, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfidata. Allora, vorrei segnalare ai signori amici dei Verdi che presentano la candidatura di Eleonora Brigliadori come capolista in Campania, caro Parenzo, che qualcuno mi ha segnalato oggi, l'amico Simone Spezia, che la signora Brigliadori è seguace di una teoria medica che ha dell'assurdo. Com'è che si chiama quello là che ha ucciso l'erede al trono? Amer. Esatto, è seguace della teoria del professor Amer, il quale pensa che le persone possano guarire dal cancro senza curarsi. È ricercato dalla polizia tedesca per antisemitismo, dalla magistratura tedesca per antisemitismo, ed è stato dovrà dare spiegazioni su questo, no? Anche i Verdi in Campania dovranno dare spiegazioni su questo. Cioè la signora Brigliadori, capolista, è seguace delle teorie del signor Amer, un truffatore di professione cacciato dall'ordine dei medici perché pensa che la gente si possa curare senza le medicine, così, semplicemente con la natura, diciamo. E poi è un antisemita di professione, signor Amer. Signora Brigliadori è un seguace del signor Amer. Vabbè, questo è una parentesi, è un inciso. Andiamo con noi invece sulla questione della prostituzione delle città italiane. Un sindaco che se ne è uscito con una cosa molto curiosa, caro Parenzo. Leggo qui: giubbotti catari frangenti per sfrattare le prostitute, obbligo di indossarli per chi cammina sulla Vigentina nel Pavese, previste multe da 500 euro. Il sindaco: così scoraggeremo le lucciole. Cristiano Migliavacca, buonasera signor Cruciani. Come andiamo? Come andiamo, Migliavacca, sindaco di San Genesio ed Uniti, provincia di Pavia? Ora io dico una cosa: lei sarà sicuramente contro la prostituzione per strada e tutti siamo contro la prostituzione per strada, non vogliamo casini, non vogliamo bivacchi, eccetera. A me non è che mi dà particolarmente fastidio, però capisco che una città deve essere ordinata, cioè un sindaco non voglia le mignotte sotto casa, i bambini che passano, eccetera eccetera, giusto? Anche lei non le vuole, corretto? Esattamente. Allora, il nostro input che è arrivato a fare questa ordinanza è proprio per il decoro pubblico, non per i nostri bambini, per le nostre famiglie. È quello che dicono tutti, però adesso lei se ne esce con questa cosa dei giubbotti catari frangenti. Mi può dire chi dovrebbe indossarli questi giubbotti e a che cosa servono? Allora, è un'ordinanza che è stata fatta giustamente che segue il rispetto del codice della strada, visto che un sindaco è in prima persona responsabile di governo per sicurezza pubblica e sicurezza stradale. Cosa succede? Che se una persona si trova su una statale, provinciale che sia, fuori da un centro abitato, per la tutela sia dell'automobilista che guida, deve essere ben visibile. Perciò abbiamo imposto a tutti i pedoni, cioè persone che sono ferme lungo il ciglio stradale o lungo le rotatorie, di indossare dispositivi di alta visibilità. Sì, però scusi, è una furbata, dai, giusto? Cioè, in sostanza, che succede? Che pure le prostitute devono indossare questi giubbotti, questi... Allora, Sicuro. Allora, qua tutto è nato per questo problema, perché è inutile che ci giriamo intorno. Appunto, cioè, secondo lei che cosa immagina? Delle prostitute che indossano questa roba? No, è un segno che le prostitute devono capire che purtroppo non è che sono qui per risolvere il problema della prostituzione, però voglio che arrivi il segnale che la prostituta purtroppo deve spostarsi dal mio territorio. Ma ho capito, ma se si sposta dal suo territorio andrà nella strada accanto, caro sindaco. A lei non gliene frega una mazza, questo lo posso capire, però è così, cioè, lei libera una strada e si presenta il problema per un altro sindaco. Io sicuramente io ringrazio tutti voi che mi avete dato la possibilità di trasmettere questa che magari anche qualche altro sindaco può copiare, perché penso... Io non ho capito bene questi giubbotti, chi li deve indossare ancora? C'è l'obbligo di indossare questi giubbotti se si transita a piedi su una strada, giusto? No, o che si sosta lungo la statale 200. Cioè, se io sono una prostituta, mettiamo, io Giuseppe Cruciani impazzisco, mi faccio un'operazione, mi metto, no, con la gonna eccetera eccetera, vado a battere su una strada vicino al suo comune, ok? Che cosa devo fare? Devo indossare un giubbotto perché altrimenti non posso sostare? Allora, nell'ordinanza abbiamo messo giubbotto dalle 8 alle 18 di sera e per aumentare la visibilità dalle 18 di sera alle 8 di mattina anche i calzoni, perciò tutta completa dalle 18 in poi, cioè per cui praticamente per scoraggiare, lei dice in sostanza, esatto, per scoraggiare la presenza di una con la gonna. Allora, noi non vogliamo colpire queste povere ragazze che sono vittime. Sì, ma questo lo dicono tutti, ma nessuno lo metterà mai. Ma lei no, bravo, questo è il punto. Esattamente, bravo, ma adesso non chi è che lo mette? Ma non è che io sono lei qui ha fatto le voglio vestite così. Assolutamente, questo qui è un atto che vogliamo mettere a disposizione per il nostro comune per deterrente alla prostituzione. Esatto. Ma non è, ma Parenzo gli dà pure ragione. Parenzo gli dà anche ragione. Do ragione perché è intelligente e soft come metodo. Non umilia le donne. Ma quale soft? Sì, perché non umilia le ragazze. Ma è come dire ti faccio la multa. Ti faccio la multa. No, no, è invece intelligente. Miglia Vacca, sindaco di San Genisio. Vabbè, è quel che è. San Genisio ed Uniti. Sì. Ma quanti comuni sono? Uno. Ed Uniti, San Genisio e Uniti, perché abbiamo anche le frazioni. Tutti noi di San Genisio, amici di San Genisio, tutti hanno le frazioni, perché anche Milano e Uniti, allora si dovrebbe dire, perché San Genisio ed Uniti? Si vede che hanno unito dei comuni. C'è anche Siracusa e Uniti, cioè Roma e Uniti, perché avrà unito delle frazioni, poverino. San Genisio e Uniti, San Genisio e Uniti. Bravo, sto sindaco che non umilia le donne. Ma che c'è, ma perché cerca di combattere il fenomeno della prostituzione da strada? Ma come? Ma non si può battere questo fenomeno, ma non ci, ma quella è la polizia che deve farlo. E no, il sindaco da una mano, bravo. Scusi, però dalle 8 alle dalle 18 in poi, sindaco. Dalle 18 in poi, com'è questo giubbotto? Non so neanche di che partito sia. Della Lega, sindaco. Della Lega. Ecco, bravo. Della Lega veramente? Sì, è della Lega. Beh, guarda, c'è uno della Lega. O sbaglio, Vacca. No, sono allora, innanzitutto sono il sindaco di San Genisio. Vabbè, questo adesso. No, ma anche se è della Lega, bravo, lo riconosce, uno è bravo, è leghista, bravo. Benissimo, io ho capito. Dalle 18 in poi la tuta che devono indossare, anche la tuta completa che calzoni, perché che colore? Che colore? La classica tuta di alta visibilità, adesso non è che arancione o gialla, omologata e certificata come dal codice della strada. Ma lei quante le fa ogni tanto le multe, oppure no, le multe a quelli che vanno a Mignotte? Assolutamente sì, abbiamo anche un'ordinanza. E quante ne ha fatte fino adesso? Una, due, tre? Non servono? No, non servono. Sono state prese in flagrante 4-5 persone. 4-5, purtroppo 4-5, il problema che sappiamo tutti, la polizia locale, non abbiamo soldi per investire sulla polizia ma locale. Ma che hanno fatto calmi, questi qua? Hanno pagato? Sì. Lei non gliela spedite a casa dove le mogli magari gli aspettano? No. Hanno ricevuto il suo bollettino e l'hanno pagato. Subito l'hanno pagato, subito, no? Cioè, hanno conciliato subito o no? Assolutamente sì. Cioè, sul posto? Allora, gli abbiamo dato gli abbiamo dato il bollettino e l'hanno pagata. Ah, il bollettino in mano e poi di nascosto, via, eccetera. Vabbè, però io trovo che sia... No. Ma scusi, ma perché non fa una bella zona riservata alle puttane? Assolutamente no. Una bella sono zona, ma ho capito, ma tanto la prostituzione esiste e esisterà sempre, caro. No, io non so, allora, dobbiamo scusi, fare... Scusi, ma prima delle 18 com'è? Lei solamente il giubbotto senza pantalone? Sì, era per la copertura delle parti alte prima delle 18. Cioè lei vuole coprire sostanzialmente, coprire tutto, in modo che non si veda niente. Assolutamente. In modo da scoraggiare queste qua, dice, se dobbiamo andare... Ed è l'unico modo, mi creda, che un sindaco può intervenire, perché la prostituzione in Italia non è reato, lo sappiamo tutti, è reato lo sfruttamento della prostituzione, perciò se vogliamo intervenire e dare anche una possibilità a queste ragazze di non essere sopra una strada, non può farlo solo il comune di San Genesio, io spero che questa iniziativa venga promossa anche da altri, è un modo per tirare via queste povere ragazze che vengono usate come bancomat ma non è quello dalla criminalità. Ma non è lei non, di questo qua se ne occupano altre persone, lei dovrebbe gestire il territorio, per gestire il territorio le tute colorate e le tute quelle che vengono usate di notte per le segnalazioni è un modo assurdo per punire quelli che giustamente vogliono andare a puttane. Ma scusi Cristiano, ma un abitante del suo paese Migliavacca che vuole andare a puttane, perché non ci può andare? Può andare e ci andrà dove è permesso, andrà negli altri, cioè lei vorrebbe, dove è permesso. Lei vorrebbe che i suoi abitanti non andassero a puttane? No, questa non è la vuole realtà. L'assolutamente no, io non sono qui a debellare la prostituzione, perché non sapremo neanche in grado, perché è il lavoro più vecchio del non mondo. La vuole sulle strade, vabbè, non la vuole sulle assolutamente strade. Ma anche per questione sanitaria. Vabbè, a presto, grazie Migliavacca. Pubblicità. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Però tu non dai un buon esempio, tu sei forte coi deboli e deboli coi forti. Allora ragazzi, 800 24 00 24, vogliamo andare a Siracusa. Antonio, mi senti? Sì, uno mi scrive: il dottor Hammer, il padre del ragazzo che fu ucciso a fucilata da Vittorio Emanuele di Savoia in Sardegna 4 anni fa, l'abbiamo già detto, ed è anche un feroce antisemita ed è pure un truffatore di professione, perché è stato condannato più volte per diversi reati. Questo signore viene seguito costantemente, viene ammirato dalla signora Eleonora Brigliadori, capolista dei Verdi in Campania. Antonio, dimmi. No, niente, no, vabbè, su questa cosa non ho niente da dirti, perché... No, su questa cosa no, su quello che ti pare. No, sul fatto di curarsi il cancro con questi metodi alternativi, poi lì... Povero chi ce l'ha il cancro addosso, guarda, lasciamo stare. Vabbè, no, allora... Io volevo semplicemente dirti una cosa su quello che ho sentito dire a Parenzo. Parenzo. Con la opera, Parenzo. Quella sui rom di... Del 5 per 1000, sì. 5 per 1000. Sì. Ma dai, ma scusa, ma questa trasmissione è fantastica. C'ha sempre però quel Parenzo che comunque è messo lì Parenzo a dire delle cose un po' strane. Ma se lui vuole dare... Non è messo lì, no, un momento. Non è messo lì a dire delle cose strane. Dice Parenzo, no, dice scusami, quel che pensa. Ma questa gente qua vive in una società dove non ha nessun dovere. Non difendo chi ruba, sono contro le discriminazioni di gruppo. Questo è il punto. Ma se vuole le ruspe, guarda, le ruspe certo. Come no? Perché se io mi permetto di fare ciò che fanno loro, la buttano la chiave. Ma l'illegalità va combattuta ovunque, ma sia essa fatta dagli italiani, dagli immigrati, dai gialli, guarda, dai neri, dai blu. L'illegalità è ovvio che va combattuta sempre. Ci vogliono le regole per tutti. E infatti le regole per tutti impongono che quei politici che hanno rubato sulle spalle dei rom e sui campi rom devono pagare. Che c'entra questo? Ma ascoltami, ma tu hai visto mai pagare la luce, l'emergenza rom in questi anni? E il gas a sta gente? Ma sai che entro dentro le case qui da noi e rubano, certo, in continuazione. E ma quelli che rubano devono andare in galera, ma questo è stra evidente, mi pare. Ma non ho capito, tu il tuo 5 per 1000 lo dai a queste associazioni pro rom? Io l'anno scorso l'ho dato ovviamente alle comunità ebraiche italiane, altre volte l'ho dato a altre associazioni che rubano. Mi sembra non abbiano bisogno di tanti soldi le associazioni ebraiche italiane, ma comunque vabbè. Il 5 per 1000 non è una tassa, è una cosa che tu dai dalla tua dichiarazione dei redditi, e lo posso dare a chi mi pare, tu non lo dai a nessuno. Benissimo, ma non è che sono soldi che uno sceglie per me. Io lo do alle persone a cui voglio darlo, cioè l'ho dato tutti gli anni all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Puoi darlo ai Valdesi, lo puoi dare alle associazioni che si occupano, allora? A chi ti pare. Fine. Vabbè, Cinzia da Firenze, vai. Cinzia. Sì? Si chiama Ciao. 5 per 1000 apposta. Dimmi. Ascolta, io volevo dire una cosa per quanto riguarda gli animalisti. Sì. Allora, scusa perché siamo un po' in ritardo rispetto al programma. No, non ti preoccupare, Cinzia, è 4 giorni che parliamo di questa storia. Io volevo solo dire questo, vorrei che per miracolo chi la pensa in quel modo, cioè chi è animalista stretto in maniera talebana, per miracolo una volta si trovasse senza soldi e dovesse, o con pochi soldi, e dovesse scegliere se curare il proprio gatto o il proprio figlio, dal momento che i gatti sono uguali agli esseri umani. Questo è curerebbero basta, sicuramente, è una situazione estrema quella che dici, ma sì, curerebbero sicuramente al posto del proprio gatto, no, ma signora di ieri sera, quella sì, che te poi le hai detto di andare a letto con gli animali e hai fatto bene, quella signora le vorrei dire, ma se lei avesse un cancro e dovesse curare se stessa, comprerebbe il mangiarina ai gatto se non gli bastasse soldi, o comprerebbe la cura per se stessa? Questo e basta. Grazie Cinzia, ciao, bene, ciao, ciao, ciao, ciao. Parleremo adesso di legge elettorale. Beh, oh, con un grande politologo. Grande meno politologo, male. Secondo meno te chi male c'è adesso? Sì, perché effettivamente la battaglia di oggi sull'Italicum. No, ma dimmi fiducia, chi c'è secondo te, dimmi chi c'è. Dimmi chi potrebbe c'è esserci Ricolfi. Ah no, scusami. No, no, non c'è Ricolfi. Potrebbe esserci uno di più, Dalimonte, che sul Sole 24 ore, uno dei più grandi esperti di legge elettorale. Professore, no, buonasera. C'è. No, non c'è, non è lui. Dalimonte, bravo. No, ma non c'è Dalimonte. Cioè, ti non spiega è Dalimonte anche il metodo D'Hondt, che tu non sai neanche cos'è. No, lo so benissimo, sì, ma non ne parlo. Lo scorporo, ad esempio, che non è una cosa pornografica. O una acqua, malattia. Acqua, acqua. Chi c'è secondo te adesso? Chi c'è? Dalimonte ci sarà sicuro. No, non c'è Dalimonte. Non c'è Dalimonte. Non c'è Dalimonte. No, no, secondo te non chi c'è Dalimonte. E Pasquino, politologo, no, Pasquino, anche quello è molto bravo. Pasquino. No, no. Lorenza, no, no. Carla Sarre, che no, è stata anche professoressa di diritto costituzionale. No, nemmeno, nemmeno. Nemmeno. Però se andiamo vicino, una donna, una donna. Ah, una donna. Sì. Una donna potrebbe, che è esperta di questioni elettorali, la Finocchiaro anche, no, se sa, no, molto, no, di queste cose, no, di legge elettorale. Assolutamente. E con la ministra Pinotti l'ho vista oggi. Poi Lisa Fusco, buonasera. Chi è Lisa Fusco? Buonasera. Come stai? Chi finalmente è la signora Fusco? Non ho letto i editoriali della signora Fusco. Lisa Fusco è una showgirl. Sento una vocina che disturba, ma chi è? È Parenzo, quello un po' basso. Quello un po' basso. Lo conosci? Ah, basso. Lo conosci, Lisa? Beh, basso, no, normale, non lo conosco. Diciamo. Non lo conosci. Non l'hai mai sentito nominare. Non l'hai mai sentito nominare, addirittura. Mai. Posso mai dire altrettanto, ma ma infatti, male, noi siamo già. Questo tema già ci siamo soffermati. Posso in passato. Dire lei non conosce me, io non conosco lei. No, non, però non conosco la sua opera, ma no, mi informerò. Dovresti conoscere. Io non conosco neanche la sua opera. Esatto. Comunque siamo bassi entrambi. Ah, pure tu sei bassa, da Lisa? Comune. Sì, sì, sì. Ma quanto sei alta, scusami? Io con chi parlo? Quanto adesso sei basso? Sono Giuseppe, dai, dimmi. Ah, Giuseppe, sì, a te ti dico tutto. Dimmi, caro. Io sono alta 1,50 senza somiglia, tacchi. 1,50 senza tacchi. Altre misure ce le puoi dare? No, quelle là poi te le faccio vedere dal vivo se ti va. Sì, ma quello può darsi, però si piglia. Spiegami una cosa, ho capito, però le misure, dato che vuoi fare la, come dire, vuoi entrare nel mondo dell'hard, le misure. No, non è detto ancora. Non è detto ancora. Se nel mondo della Treccani non credo, però non sono arrivate proposte migliori. L'unica proposta che mi è arrivata, guarda, pochi minuti fa, sì, mi hanno chiamato perché vogliono che io lavori, come si chiama, questo The Lady di Lore del Santo. Ma guarda, meglio il porno. Quindi lavorerete insieme sostanzialmente. The Lady di Lore, ma questo del anche Santo. A me, quindi lavorerà con hanno Cruciani, hanno, allora hanno questa web serie erotica. Hanno scritto che anche tu devi appunto tu Cruciani. Hanno scritto, come dici tu giustamente, hanno scritto. Ma allora la devi denunciare, perché sta usando denunciare, te per fare denunciare addirittura. Sta usando il tuo nome per farsi pubblicità. Vabbè, io meglio ci il porno qualcosa di vero, Lady. Cristiano Malgioglio ha ragione a dire che è vergognoso. Mi dispiace se tu partecipi, guarda, io me ne muoio, perché io ti ammiro, sono innamorata di te, sei un giornalista. Sì, è vero, ma come ne sai tu? Perché che ne sai? Perché mi ha chiamato pochi minuti fa Cristiano Malgioglio, che lo abbraccio fortissimo, e mi ha detto: ma non partecipare a quella roba lì. Ma no, sì, io lo so. Ma che ne sai tu? È uscito. Senti, me l'hanno detto, ma tu l'ho letto su. Beh, nei vostri ambienti gira la voce, parte si vede, vedo, no? Sì, ma gira la voce anche che. Bene che sia molto discusso di Cruciani in questi ambienti, bene, ma bene. Si gira anche questa voce che tu hai letto, sì, sei molto meglio di Rocco Siffredi. No, Lisa, guarda, ti assicuro che questa qua è veramente una cazzata. No, me l'hanno detto, me l'ha detto una tua vecchia fiamma. Ma, cioè, cara Lisa. Questo dicono in genere. Io Lisa ti adoro, sono, guarda, pazza di te. No, ma innanzitutto tu hai un fidanzato, chiariamo tutto, hai un fidanzato. Hai un fidanzato? No, io non ho proprio nessuno. Ma non avevi un fidanzato, scusa? Una volta. Avevo un fidanzato. Ma scusa, fino all'altro professione, giorno. La professione era costretta. Giorno. No, diciamo. No, non l'ho mai avuto. Vabbè, allora andiamo con le misure. Lasciare, però, perché la gente che sta alla radio qui, che ci ascolta, tantissime persone vogliono capire bene. 1,50 m abbiamo detto? 1,50 m, guarda, ti te lo dico, sono 1,48 m. 1,48 m, poi? Però senza i tacchi, con i tacchi arriva 1,60. Vabbè, quello con i tacchi uno può arrivare a qualsiasi misura. Altre misure? Altre misure, guarda, al momento. Al momento? Non le so, non le conosco ma proprio precise. Ti sei rifatta che è una quinta, quarta, quinta, che c'hai? Ah, ma tu dici proprio il se. Ah, le misure, no, sì. Una terza piena. Terza piena, sì. Poi c'ho sono, diciamo, anni 50, lo stile anni 50. Detta anche la moanina, Parenzo, cioè perché assomiglierebbe in teoria, chi l'ha detta sta cosa, a Moana Pozzi. Ma è vero che vai a Budapest? Sì, ho appuntamento lunedì. E proprio, guarda, mi hanno mandato anche delle foto. Ma quando parti? Nel weekend? Ma Budapest, Budapest non è per analizzare le ragioni della caduta del comunismo, immagino. No, non credo. No. Non ho capito una sola parola della persona, della formica che parla ogni tanto. No, allora, dico, Lisa, che Fusco. Vai a fare a Budapest nel weekend? Quando ci vai? Quando ci vai? Devo partire domani. Parti domani? Sì. Ma che vai a fare a Budapest? Ma Rocco Siffredi dice che non te conosce, che non è vero che fai sta roba qua. Non no, allora non ha detto che non mi conosce, ha detto che non sta solo lui a Budapest. Ha detto che lui non ha avuto questa fortuna, perché poi tra l'altro mi vuole nella sua scuderia. Sarò una cavalla anche io. Come una cavalla? Al massimo un pony. Cioè tu sei sicura di entrare nella scuderia di Rocco Siffredi? Sei sicura? Al 100%, no, non è che sono sicura. Ma dai, i tuoi che dicono? Cose... Quanti anni hai tu, Lisa? Scusami. Allora, i miei che dicono? I miei dicono di andare disperati. A vedere. Di andare a vedere? Che, di cosa si tratta? Io farò una controproposta, te lo dico solo a te, ti dico la verità. Dimmi. Io vado lì e dico, guardate, prima di tutto questi qua che mi hanno mandato le foto di questi uomini tutti muscolosi, sembrano dei camonisti, a me non mi piacciono. Io farò la controproposta. Io voglio persone più delicate, esili, cioè, un po' come te, dai. Vabbè, ma adesso tranquillamente. No, ma cosa faresti? Ma io non faccio nessun film, questo è il punto. Sai che ci sono dei palazzi barocchi straordinari a Budapest. No, ma io voglio capire una cosa, Lisa. Vai a Budapest a cercare di entrare nella scuderia di Rocco Siffredi. No. Allora, ricapitoliamo un po'. Allora, io sono stata contattata da un produttore di Budapest, sì. Perché praticamente forse per fare questo remake di Moana Pozzi. Di Moana Pozzi, fantastica Moana. Perché però? Non perché io sia chissà chi, ma perché ho il viso che ricorda vagamente, sì. io vedo vagamente. Gli altri dicono che somiglio tanto, a volte negli sguardi, nei miei modi, anche capito, in intimità. Tu però il nome, secondo me, prima di pronunciare il nome di Moana Pozzi, beh, amica mia, cioè, adesso... No, lo so, ma non l'ho pronunciato io, non l'ho pronunciato io, anzi, tanto di cappello, io sono certo. Addirittura, non sono onorata, però stiamo parlando comunque di una persona bella, ma comunque una persona che faceva la pornografia. Le posso io consigliare, non signora, di visitare? Le posso consigliare? Aspetta un attimo sì. che Parenzo ti no, volevo dire visto che va a Budapest, le posso consigliare anche di visitare il Palazzo Reale e la Galleria Nazionale, che è molto bella, oltre ai suoi lavori che dovrà svolgere lì, insomma, nella città. Sì, ho capito tutto, sì, va bene, ci andrò, ci passerò, però per il primo devo parlare prima di cose concrete. Allora, sì, la prima cosa che voglio fare è che voglio dire a queste persone, dimmi. No, perché siccome loro quali hanno fatto da loro la proposta, non da me, sì. Come in Italia non c'è nessun'altra via di uscita per le persone basse. Ah, stai dicendo che è la fuga di cervelli questa qua, Sì, a questo punto io forse accetterò, però con una controproposta. Siamo cioè, tutti voglio in attesa, guardi. Sa quando qualcuno, si fanno quei film e mettono le controfigure, bene, io voglio mettere la faccia e qualcun altro ci metterà la figa. Qualcun altro, no, come si fa tecnicamente? Interessante, scusa. Questo che ha detto, stanno bloccando le rotative del sole. L'ha detto eh? Anche Rocco Siffredi, che le basse sono meglio delle alte a letto. Sì, allora? E che praticamente preferiscono comunque, anche lui preferirebbe una tipa come me. Però, siccome io sono una ragazza casa e chiesa, voglio vedere un poco di accettare questa proposta, dato che ma scusa, se sei lavoro, casa e chiesa... Ma facendo una... Io ho detto che sono casa e chiesa, ma non ho detto che sono una santa. Ho capito, ma se sei una casa e chiesa e vuoi andare, vuoi accettare la proposta per fare un film hard in Ungheria, Giuseppe, scusami, ma se in Italia. Ma tu sai cos'è l'Italicum? Sai cos'è l'Italicum? No, non so nulla. Ma cioè, non cos'è la parola fare. Italicum? Che vuol dire Italicum? No, guarda, Giuseppe. Ma veramente non lo sai? No, adesso seriamente. Non lo sa. Non no, sai. Ma nessuno no, lo ma sa. Che cos'è? Che ne so, il nome di un caffè? Vagamente. Il nome di un treno? No, io non. Guarda, io mi rifiuto di rispondere a domande perché non ha importanza. In Italia non ha importanza se che tu sappia una parola che significa il significato di un monumento. No, ma siccome se ne sta parlando in Italia, molto, no? In Italicum. Io sono costretta un po' come Monica Bellucci che se ne è dovuto andare fuori. Ah, tu dici sei discriminata in Italia? Io sono discriminata, ma io come gli ebrei, magari, come gli ebrei. Come gli omosessuali e come gli ebrei. Come gli ebrei, parezza, è discriminata come gli ebrei. No, come gli omosessuali e come gli ebrei. Ma perché si dovresti essere discriminata? No, comunque, perché? Perché dovresti essere discriminata? Perché, Giuseppe, allora, siccome in Italia non è come in America che quando non badano altre cose, badano al talento. In Italia non. Ma il tuo talento non sai fare niente, però. Se tu non sai fare niente, però diciamo che ti hai dato scandalo e si è parlato di te, ti propongono film, ti propongono magari di girare fiction, ti propongono di fare l'ospitata nei programmi. Ma tu la dai in giro o no? No, la dai, no! Non la dai in giro? Mio, amore la mio, la darei a te, la darei a te. Vabbè, io lascio sì, perché io non conto niente. Ma la bravo, tu non conti niente, quindi non te la do. Quindi io non la do, capito? Io non la do, non l'ho data. In Italia o la dai, o tieni qualche politico dietro le spalle, oppure hai fatto qualche matrimonio di convenienza. Diciamo, questo è il segreto di Pulcinella, che nessuno se lo dice, ma tutti lo sanno. Io non ho più niente da perdere, mi sono scocciata e voglio dire le cose come stanno. E dunque vuoi andare a fare un film hard? Vuoi andare a fare un film hard in Ungheria? Ho fatto scuola di danza, di canto. E niente, non ti si piglia nessuno, vabbè. Non mi si piglia nessuno, però devi vedere come vogliono, come fanno con le proposte. Io ne ho avute le proposte. Ma le proposte proprio di quelle esplicite? Oh, proprio. Le proposte hot, ma io non faccio neanche i nomi e i cognomi, potrei anche farli. Perché io, le grandi denunce della Zanzara. Lisa Fusco dice: mi propongono solo di fare sesso. Mi propongono solo di fare sesso. Mi propongono solo di fare sesso. Beh, certo, in non descriversi la fondazione. Io non l'ho mai fatto europei. Perché ho voluto. E dunque voluto ti senti discriminata? Ti senti discriminata? Mi sento discriminata perché essendo bassa, non ho le occasioni. Non posso, per esempio, ho mandato delle foto per partecipare. Vabbè, ma che cos'è Italicum? Che cos'è l'Italicum? Non lo so. Non ma lo dai, so. L'Italicum, vagamente, Lisa, vagamente. Non lo so. Ti devo lasciare. Ma chiedilo alla Cipriani. Forse te lo ti saprà. Ti do un bacio, ti lascio. Ciao. A domani, 18:30, ciao. Ma stasera sta più ammattonata da tutte le parti, Stasera ti stanno a far nero, bruciare, capito? E ti stanno a massacrare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei sceso di livello! Ma stavo scherzando! Radio 24. La passione si sente.